Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Asmodeo. Di Parezzo, venti di Parezzo. A me ne piace un spicchio. Sei Asmodeo, sei Cruciani. Siamo qua a Budapest, espatriati italiani. Io sparo un amico mio. Quello vicino a me mi abbraccia, dice tu ascolti la zanzara. C'è solo un problema, lui è parenziano. Dottore uscito, è andato a fare l'aperitivo, grazie. Dottore un cazzo. Lei è un insultatore. E fammi parlare, stronzo! Pronto! Naturalmente! Succede alla Camera dei Deputati. Sì? Salvini viene portato fuori dai commessi durante l'approvazione della legge sulla legittima difesa. Senti, prima la Boldrini, poi il Parapiglia. 3380, 3384, 3419, 3424. Allora, in tribuna non si può gridare, è possibile far allontanare chi grida in tribuna, grazie. In tribuna c'era Salvini. Certo, l'ha portato via. Giusto. Che dice, come qualunque altro cittadino. Non come si urla, qualunque altro non si grida. Manifestante. Come qualunque che fa altro casino, manifestante dici. Che fa casino. Bravo, certo, c'è una regola, no? Cioè, tu dici alla Salvini camera, che, va, che protesta spesso lì, con i manifestanti che fanno. Sei una gazzarra, sei un forcone, sei un minchione, sei un neurone, sei un neutrone. Qualunque cosa. Un sei maiorone. Sei un maiorone, sei la Peppa Pig. Vabbè, facciamo l'esempio. Lascia stare Salvini, sei la Peppa Pig. Vai, visto che sei la Peppa Pig, fai casino alla Camera dei Deputati e ti prendo, dico, scusi signora Peppa Pig, lei però va a fare questa gazzarra fuori. È normale, non è che adesso, ecco, complotto, Soros fa cacciare Salvini. Che c'entra Soros? È una gazzarra che hanno fatto la Camera dei Deputati, ha fatto casino e la Presidente l'ha fatto esplodere. Non c'entra Soros, ma non chi c'è ha detto? Un complotto. Ma no, perché salterà fuori. Ecco, hanno cacciato Salvini. Hanno cacciato, certamente, naturalmente. Uno fa casino, viene cacciato, no? Ma è ovvio, è che comunque Soros. Ragazzi, questa roba sulla legittima difesa, per cui si distingue. Ottima legge, la si sto distingue studiando. Tra la notte ottimo. E il giorno. Sì, quella vabbè, lascia stare è quella. Patetica vabbè. Questa quella cosa lascio, qua. Quella una rapina. Anche tu sei costretto ad ammettere che hanno approvato una legge patetica. Distinguere tra la notte e il giorno è ridicolo. Basta solo questa. Non voglio più parlare io. Chiudiamo tutto. Stavolta lo dico io. Chiudiamo tutto. Sono d'accordo. Chiudi, basta. Ma io sono d'accordo. La distinzione su una rapina di giorno e una rapina di notte è patetica. Chiudi. È patetica, basta. Sei d'accordo anche tu? Sono d'accordo sul chiudere. No, sul patetico no, sono d'accordo sul chiudere tutto. Ah, ma come si fa, ragazzi? Salvini, sentiamo ancora. In Italia adesso si può rapinare e violentare ancora di giorno. Ancora Salvini. Questa mi pare una minchiata che in Italia si può violentare ogni giorno. Sì, rapinare e violentare. Ragazzo mio, su, dai. È l'ennesimo affronto di un governo clandestino. che arma i ladri e disarma i cittadini. In Italia si può rubare, scippare, rapinare, violentare di giorno, perché ti puoi difendere solo, forse, di notte. Signor Salvini, si può violentare e rapinare di giorno. Non sapevo. In realtà quella è un pezzo, quella lì, a parte che non è legge perché è stata provata solo alla Camera. Perché devi andare subito sul tecnico in questa trasmissione? Nel merito, ci sono delle cose ottime in quella legge. A me basta questa cosa qua della notte del giorno. Ma spieghiamo a chi ci ascolta. Chiuso qui, chiuso, tutto chiuso. Lo Stato paga l'avvocato. Ma cosa chiudi adesso? Chiudo io, stavolta chiudo io. Cosa vuoi chiudere, dai? Allora, senti però Fiano del Partito Democratico, che è un milanese, un deputato milanese. Non è vero che la notte è uguale al giorno. Ti giuro, ha detto così. Non è vero che la notte è uguale al giorno. Infatti mi stanno dicendo, non è così. Non è vero che distingue notte e giorno. Sì, ma questo te lo dicono i tuoi amici del PD. No, ma che amici? Me l'ha scritto Viale. Non è vero che la notte... Viale, vabbè, sei del PD, appunto. Non è vero che la notte... L'ho detto Viale. Che cos'è Viale? Ma che c'entra? Ma chi dice? Ottimo Viale. Lo dice, fa la distinzione. Infatti Fiano, PD dice questo. Non è vero che la notte è una cosa indifferente, perché noi da dove abbiamo desunto questo aspetto? Dai processi. I casi nei quali gli avvocati che difendevano coloro che si erano difesi sostenevano, secondo me giustamente, che uno si vede entrare un'altra persona in un momento in cui non può vederlo, non può capire quali sono le intenzioni, non può certo chiedere se vuole ammazzarlo o no, non può vedere se è armato. Non è vero che la notte è uguale al giorno. Amico mio Fiano, se ti entra qualcuno anche durante il giorno dentro casa, è uguale, non cambia nulla. Non è che se lo vedi in faccia ti fai un'idea se è pericoloso. Poi c'è un'altra cosa, che tu puoi reagire solamente se provi turbamento psichico. Ma no, e ma certo, cazzo, ma questo lo dimostra? Vuol dire la paura, ma chi, il momento, ma chi lo dimostra? Ma è facile, anzi, questo è a favore di chi spara. Ma dai, cioè su, è a favore di chi spara, perché limiterà con queste distinzioni. Ma no, è a favore di chi spara perché limiterà ancora di più il giudice. Tant'è che il paradosso di questa cosa qui è che Saviano attacca questa legge dicendo che insomma, di destra, è pessima, che è di destra. Quell'altro lì, Salvini, il Peppa Pig, che è stato cacciato dalla Camera dei Deputati oggi, cosa voleva? Dice che è troppo poco. Allora forse vuol dire che è una buona legge se due persone così, allora, lontane, senti, sono contrarie. Senti la nostra amica Merlino, che usa una... Amica mia, che usa, Mirta Merlino, ottima, che usa Mirta una Merlino, espressione napoletana, sì, più che italiana, napoletana, senti. Se io vedo un'ombra nel mio salotto, che è un ladro che vuole rubare nel mio salotto, io che faccio? Lo sparo e la sua vita vale il fatto che lui voglia rubarmi un televisore? Io lo sparo. Ragazzi, al di là dell'espressione della Merlino, io lo sparo, espressione tipicamente partenopea, la Merlino è molto critica. Sì, cara Merlino, te lo dico io, sì. Se uno entra dentro il mio salone, cara Merlino, siccome non so quello che farà questa persona, potrebbe rubare, potrebbe stuparmi, potrebbe avere le bombe atomiche in mano, non lo so quello che fa questa persona qua. Per non sapere né leggere, Parenzo, né scrivere, se ho una pistola, se ho un oggetto contundente, sì, se ho un'ascia, se ho un coltello, se ho il pisello, non lo so, qualsiasi cosa, la uso. Beh, la adesso, uso nel tuo caso, avere quella cosa lì, sì, effettivamente è un'arma impropria. Questo è un esempio giusto, ragazzi, che hai fatto. Ma è ridicolo. Mi scrive giustamente la collega Sara Mariani, che ascolta la trasmissione, dice: hai ragione tu, è come nei libri della patente, vale oppure no? Quindi capisci che la discussione giuridica, vabbè, sul fatto, non ci interessa. Lui dice, vabbè, la non discussione ci giuridica non mi interessa, no, ma interessa il merito della vicenda. Cioè hanno allargato il messaggio, vabbè, è questo: hanno allargato la possibilità di sparare. Questa è la sintesi, però. Hanno fatto la distinzione tra notte e giorno. No, ma puoi sparare di più. Puoi metterla così? Ma... puoi metterla così? Puoi, senti, sparare comunque, di più. Senti, comunque è successa una cosa che ieri, credo, il presidente del Consiglio, signor Gentiloni, ieri o oggi, non mi ricordo bene, ha incontrato Soros. Signor Soros. Chi ha incontrato? Soros. Beh, ha incontrato chi Soros. Chi ha incontrato? George Soros! Basta, io non voglio sentire polemiche su questa roba. Perché? È uno dei più grandi. L'Occidente, il mondo libero, dovrebbe ringraziare il signor Soros, ungherese, cresciuto nella fame del comunismo, ha finanziato i movimenti. Sì, durante il comunismo era di una famiglia poverissima. Durante il comunismo, poi diventato ricco, finito in America, diventato ricco, un grande. Quelli che chiamano speculatori. In realtà ha fatto i soldi con la finanza, che non mi pare un crimine. È positivo fare soldi con la finanza. Positivissimo, basta che. Infatti, poi cioè, lui. Dici che molta gente diventa ricca. Certo, da poveri diventano ricchi con la finanza. Grazie sicuramente. Dunque, poi la finanza Parenzo va tassata, dice ovviamente. Viva la finanza. Parenzo dice viva la finanza, ma la finanza poi va tassata più di chi fa impresa, ovviamente. Comunque, viva la finanza, viva la finanza. Viva, sempre lasciamo perdere, poi mi trovo dei titoli su Libero che non hanno né capo né Parenzo coda. Parenzo dice. Ecco, ma no. Viva Parenzo la finanza. Parenzo dice quello che dice. Viva cioè, la finanza. La finanza non è criminale. Soros è un genio. Soros è un genio, alunno di Popper, ha finanziato la caduta del comunismo. Dovrebbe governare l'Italia. Governare, ma fa una solo governare. Cioè, come secondo governare? Te ministro delle finanze secondo te fare. Se governasse l'Italia persona, saremmo tutti meglio. A parte che non ha nessun interesse a governare l'Italia perché c'ha magari i cazzi suoi da fare. La governa già in ogni caso la governa. Oh, eccolo. Ecco. No, la governa. Ma cosa sei tu? Quinta colonna. No. La governa dall'esterno. Ma che dici la governa dall'esterno? Dico ha così. Finanziato Solidarnosc. Sai chi è Solidarnosc? Sì, finanziò, no, certo. Finanziò i movimenti anticomunisti. Allora, quindi oggi un signore che si chiama Gasparri, che non è un remagio. Non è un remaggio, non è uno dei remaggi. Allora? Sai come si chiamavano i remaggi? Baldassarre, Gasparri. No, non è uno dei remaggi. È un signore che fa il senatore. Vicepresidente del Senato, sì. Non lo so. Che dice: noi incontriamo Zucchero, esatto. Invece Belgentiloni incontra Soros. Dovrebbe sapere lui, che è anticomunista, Gasparri, che cioè, Soros ha finanziato i movimenti anticomunisti. Ha combattuto più il comunismo. Uno lui dei remaggi. Uno dei remaggi che dovrebbe essere messo in un presepe anziché a fare il vicepresidente del Senato. Lì dovrebbe stare. A Natale, quando cioè, fai il comunismo l'ha combattuto no, più Soros di Gasparri. Ma dici? Sicuramente, nei fatti, economicamente, Gasparri a Natale dovrebbe fare il presepe con in Vaticano, Soros. Quello vivente. Sì, certamente il presepe vivente dovrebbe fare, perché è uno dei remagi, Baldassarre, Gasparri, eccetera. Non al Senato dire cose contro Soros e invocare la finanza cioè, dici, mondiale. Soros ha pure aiutato Gasparri indirettamente, dici, contro il comunismo. Come no? Ha fatto molto. Nei fatti, tu che hai fatto anche l'esame di storia, ha fatto di più Gasparri. Tanti anni fa mi sono scordato. Che c'entra? Ha fatto di più Gasparri contro il comunismo o Soros? Soros che ha finanziato Solidarnosc. Allora, George Soros, scrive Grillo, miliardario grazie alle speculazioni finanziarie sulla pelle dei cittadini come quella del 92 contro l'Italia che causò una perdita del 30% del valore della lira e una perdita valutaria pari a 48 miliardi di dollari, vero questo qua però, è stato un finanziere che ha speculato sulla lira. No, ma non è il suo lavoro. Ieri è stato accolto con tutti gli onori dal presidente del Consiglio Gentiloni. Ha fatto il suo lavoro! In barba alla trasparenza doverosa nel suo ruolo di istituzione. L'esperienza di chi? Il premier ha tenuto l'incontro nascosto. Ma l'incontro nascosto. Ma cosa deve fare? Tutto nella rete, in internet? Che deve fare? Sono amiconi e si sono visti solo per un tè? Perché lo ha tenuto nascosto? Si chiede Grillo. Nessuno ha nascosto, ha fatto della foto, non c'è nessuno nascosto. Poi conclude questa cosa, trasparenza su Soros, Zucchero non si tocca. Ma cosa c'è da Zucchero? Salvini? Come Salvini? Salvini, Soros finanzia le ONG per riempire l'Italia di immigrati. Sì, Salvini. Oggi c'era casualmente Soros, ancora, uno dei più grandi speculatori mondiali, a Palazzo Chigi, a incontrare il presidente del Consiglio italiano, mentre settimana scorsa era a incontrare il presidente della Commissione europea. Questo è un tizio che dà milioni e milioni di euro ad alcune di queste ONG per riempire l'Italia e l'Europa di immigrati. Allora ragazzi, adesso vi faccio ascoltare. Ma tu ti rendi conto delle balle che vengono raccontate? Adesso ti faccio ascoltare. No, adesso devi dire di andare sul sito della Open Society di Soros. Vabbè, cazzo me ne frega. www.opensocietyfoundation.org. Sai che io facevo pannella una volta? Quando lo facevano parlare. www.partitoradicale. Tutti lo interrompevano. No! www.radicaliitaliani. Sì. E faceva così. www.eutanasialegale.it. Ragazzi, comunque c'è il nuovo vendola, sì. Le super cazzole sulla globalizzazione, sul capitalismo. Chi è noi? Diego Fusaro. Ah, certo, bravo, la gabbia, sì. La 7. Sentite questa frase qua. La super cazzola assoluta, Fusaro, il filosofo marxista. Nel migrante il nuovo individuo apolide del sistema capitalistico che non ha direzione, è in balia di un moto browniano nella società atomizzata del capitale dove viene spostato secondo la delocalizzazione di massa. Cioè, scusa, puoi ripetere un attimo? Fusano, io ho capito cosa intendi. Il migrante, il nuovo individuo apolide, sì, del sistema capitalistico. Apolide vuol dire senza, sì, radici. Lo so, però, no, capito, vabbè, amico, diciamo, mio? Parla come mangia, Fusaro! Cazzo, dai! In balia di un moto browniano. Il moto browniano è il riferimento, dai, al moto, ragazzi, delle particelle, no? Quindi fanculo, è una metafora. Vai, dai, tutto su, fa. Fusaro, dai. Quando è che chiudete, cornuti? Faircam Air and Ocean. Spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta La Zanzara. E caffè come lo vuole? Con molto zucchero. Pensa, Cruciani. Quando dico Parenzo qui a Mantova, ma chi è? Nessuno lo sa chi è. Quando dico, scusa, ma te sei Mauro da Mantova, tutti sanno che sono Mauro da Mantova. Sono più popolare io di quell'idiota coglione lì. E poi, da paragone, il peggior nemico di Donato da Varese, no, il peggior nemico suo sono io, e lo sa quell'idiota lì. E poi, fai giornalista. Ma che cazzo fai giornalista che va laureato? Quello fa il coglione. Ecco cosa fa. David Parenzo, si guadagna da vivere come giornalista e conduttore televisivo, è famoso per le zuffe radiofoniche con Cruciani e La Zanzara, peggior nemico l'ineffabile Donato da Varese. Oh. Signor Mauro, rivendica, sentito, rivendica, lo ius prime noctis, si è sentito piccato, sì, si è sentito piccato. Ma sono io il nemico, peggiore! Pensa di Soros. Pensa cosa può pensare, no, cosa bello può dire il signor Soros. Ma è nulla di diverso da quello che dice Salvini, che dicono questa gente qua. Cioè, stanno, ma dai, scherzi a parte, che poi non voglio più intervenire su questo e vado via. No, ma che vai via, cosa? Vado via perché mi sono innervosito. C'è uno che ha scritto: senti, ma chi l'avrebbe mai detto che Vomito Parenzo sarebbe stato dalla parte di un ebreo amico dei banchieri? Ma guarda. Un signore su Twitter. Un signore su Twitter. Un signore su Twitter. Cioè, capisci che ormai, ma tu hai capito la teoria del complotto? Cioè, allora, è la cosa più, ma non ti fa schifo stare dire che è una balla? Secondo me, dire no, che è una balla, secondo me non c'è nessuna, secondo me non c'è nessun piano per l'invasione dell'Italia. Ma ti di credo, Israele. Ma che vuol dire? Che però Soros eccolo, tende a destabilizzare ogni tanti paesi. Cosa destabilizza? Per fare sue, ma speculazioni, non c'è fa dubbio. Ma non fa nessuna speculazione. L'ha già fatto. Ma fa il finanziere come tanti altri. Non è solo un benefattore. Ma che vuol dire? Non è solo un benefattore. Ha fatto una open social, ha finanziato il dissenso nei paesi ex comunisti. Ha finanziato Carità, va bene. Ha destabilizzato, sì, le dittature. Fa, ma che 40 anni fa? Ma che ma guarda che veramente sei. Ma sei un animale ormai, sei diventato. Ma 30 anni fa eri un liberale una volta. Ma sto dicendo cresciuto anche tu alla scuola di Popper. Ora sei alla scuola di quel demente di Donato da Varese. Da Popper a Varese sei passato. Chi sei morto? Stai zitto che non sei nessuno. Appunto. Da Popper a Varese. Veramente al massimo sono passato dalle popper alle poppe. Questo. Dalle pop, da popper alle poppe. Questo te lo concedo. Sì, in toscano si dice alle puppe. Alle puppe, sì. Allora, ragazzi, vi faccio ascoltare un'altra cosa prima di passare agli ascoltatori. Allora, Sgarbi è stato rinviato a giudizio. È stato rinviato a giudizio il professore, sì, per aver insultato qualche tempo fa una dei 5 Stelle in Liguria. Era candidata all'epoca alla regione Liguria. Si chiama Alice Salvatore. Gliene disse di tutti i colori. Se risentiamo le frasi, eccezionali. Lei è condannato per truffa allo, sì, Stato, qua, e percepisce un vitalizio di 8.000 euro. Io non ho fatto truffa a nessuno, io sono stato senza stipendio. La parola truffa è la perversione di un magistrato. Lei. Stai zitta, cretina! No, studia! No, studia! No, fatela parlare, no, questa che non parla solo. Le per cortesia, io sento Vittorio, questa retorica, no, gli insulti dico, ognuno dice la sua. Adesso parla Sgarbi, per cortesia, Salvatore. Mi dica qual è la truffa. Siccome la truffa riguarda denaro, io non ho preso una lira, per cui quando dice truffa la dica a sua madre che ha fatto la truffa di fare lei. Lo dica, faccia così, parlano di truffa. Studia, incapace, studia. come diceva Paolo Borsellino, non è sufficiente che ci sia l'innocenza dal punto di vista appunto giuridico, quindi fedina penale pulita, che siamo tutti incensurati, ma bisogna che ci sia anche la parvenza di onestà. Ha detto la parvenza. Sì, abbiamo l'onestà. Una candidata parvenza, presidente parvenza, al Partito Democratico che è indagata per omicidio colposo. Loro hanno il capo del loro partito condannato per omicidio. Si odiano il partito. Il primo condannato è Grillo. È condannato per omicidio. Chiude il suo partito. Siete figli di un assassino. Questo siete voi. Queste le questi insulti. Non c'è andato proprio leggero. Questi insulti di Sgarbi, che dice che però era ingiuria e non diffamazione. Vabbè, insomma, distinzioni giuridiche. Rinviato a giudizio il professore, rinviato a giudizio. Ragazzi, andiamo a dove andiamo? Andiamo a Baldassarre, bel nome, Baldassarre. Professor Baldassarre da Firenze. Vai. E infatti, buonasera. Dimmi. Però del maggio sono io, prima parlavate di De Maggi. Sì, perché sì. Beh, certo, Baldassarre è uno di questi, sì, dimmi. Gasparri. Ma sì, Gasparri, lo sappiamo. Gaspare poi il 3 maggio. Sì, vabbè, ma è chiaro che lo sappiamo, allora, ci giocava sul nome, dai, su. Lo so, l'avevo capito. Io vi seguo tutte le sere al lavoro. Vabbè, allora? Ma non perché siete dei bravi, più perché mi piace quando la gente vi manda a fanculo. Non è escluso che la manderemo noi a fare in culo stasera, cioè. Ma sicuramente, guarda, no, vorrei farvi una domanda a tutti e due, vi trovo due frustrati sessuali, però non riesco a capire cosa. Intanto benvenuto e grazie. Sì, io non so. Fa il tanto il fratino, sì, da sacrestano quando si parla di sesso. Sì. E Cruciani invece c'ha sta pizzicosi da squirting, che non ho mica tutte le sere. Magari ha visto qualche video, ma non penso che abbia avuto la fortuna di praticarlo con qualcuna. Questo ve volevo dire. Mi sembrate due frustrati. Noi siamo due frustrati sessuali. Sì, noi. Perché tu parli sempre la stessa cosa e te lo fai la domanda in diretta, ma poi l'hai provato su Twitter, come l'ho provato io. Baldassarre, io l'ho provato tantissime volte. Il tuo nome, già, sì, il tuo nome già non, diciamo, non mi ispira particolarmente. Il nome Baldassarre. Che c'entra il nome? Scusa. No, uno già che si chiama Baldassarre. Cioè, quando una donna esce, dici: come mi chiamo? Baldassarre. Vabbè, senti, vai a fare in culo, ma non esco con te. No, cioè, questo è la base di tutto. Questo è la base. Lui si chiama Baldassarre. Baldassarre è improponibile. Baldassarre è totalmente improponibile. Cruciani invece è l'incontrario. Sì, è proprio... sì, ma non ho capito. No, metti bene il telefono. Baldassarre, cioè, chiama il Re Maggi. Metti bene il telefono. Ti sto dicendo, sai come faccio di cognome? Sì, come fai? Malandrino. Baldassarre Malandrino. Bellissimo. Baldassarre. Divertente. Mamma mia, Tu non puoi sapere come acchiappa sto nome e sto cognome. Sì, sicuramente, sicuramente, guarda, non ho il minimo di dubbio. L'unica posso cosa fare la domanda apparente? No, l'unica certezza che ho, che secondo me tu hai le pigne nel cervello, secondo me. Oh, ma se ti stimo di più, voglio fare la domanda apparente. Sì, fai la domanda apparente. Dottore, è uscito. No, sembra sempre che lui ci abbia la soluzione per tutti i problemi sui tutti i mali. Fermo palale con le Maggio. Fermo. Ma sai tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito. C'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo niente. Per una notte romantica. Culo niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh. Vai con la notte romantica. Ah, ah, ah. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della... Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. La Zanzara. Parenzo, ma vai veramente a fare in culo? Parenzo, vaffanculo! Ma come? Mia mamma, 83 anni, con difficoltà motorie, non ha l'accompagnamento e un delinquente, un criminale che si è fatto 20 anni di galera, sì? Ma Parenzo, vai veramente a fare in culo? Parenzo, il CSM sostiene Zuccaro. Il CSM sostiene Zuccaro. Parenzo, suca. Esultano i sindacati dei ladri. Finalmente è stato eliminato il turno notturno. Lavoreremo come lavorano tutti gli italiani, di giorno, e soprattutto non dovremo rinunciare alla paga notturna, che non ci è mai stata data in realtà. Allè, avanti. Caro Parenzo, il CSM ti ha dato una bella botta, ti ha dato una bella botta. Avete perso ancora una volta un'occasione per spiegare esattamente come sono andate le cose. Vabbè, ma è arrivato non il quello che fa no, il check. No, come si chiama quello che fa checking. Il fact checking? La verifica delle notizie. Ma dai, il CSM, il CSM, ma dai, il CSM, ma su cosa? Non è che tu dici, ma dai, su ridimensioni allora la notizia. Avanti. No, ma è una cosa il evidente CSM, quella che cosa ha fatto c'è il l'organo CSM di autogoverno della magistratura. Ha detto che sta con Zuccaro, fornirà fornirà di più strumenti, e questo è più che mai ha giusto, detto che deve fare le indagini, di Zuccaro fornirà tutti gli strumenti necessari per fare l'inchiesta che per ora non ha fatto. No, quindi che per ora non ha fatto. Intanto hanno aperto, tu dici, hai detto ieri, non hanno aperto nessuna inchiesta. Inchiesta aperta, c'è un'inchiesta aperta a Trapani. No, non l'ha ancora formalizzata. Adesso l'ha formalizzata adesso, evidentemente, senza capo di imputazione allora... e senza. Ha detto che il CSM ha detto che fornirà altri strumenti, e poi soprattutto, cosa che non avete messo voi del mainstream bene in evidenza, che adesso stileranno un codice di comportamento che i magistrati e i PM devono tenere in fase di indagine, cioè come e se parlare e fare esternazione nel corso dell'indagine. Quindi sul punto carte bollate. Sul punto, è un punto fondamentale, perché ma io l'ho criticato, dai, perché lui su, prima di aprire il fascicolo è andato a dire che sta indagando. Ragazzi, è 20 anni che giudici parlano in qualsiasi sede. Infatti, non rompete i coglioni a Zuccaro. È 20 anni che giudici parlano in tutte le sedi possibili immaginabili e sono stati spesso esaltati. Spesso sono stati esaltati per questo. Dunque, dal anche CSM. da te. Non me ne frega un cazzo a me del CSM. Ma qui non era stato non neanche me ne frega nulla l'inchiesta, non di queste scartoffie. Agli italiani del CSM non frega una mazza. Chiaro? Non frega nulla. Ma adesso c'è improvvisamente il tifo. Quelli che una volta attaccavano i magistrati, improvvisamente adesso, siccome Zuccaro starebbe indagando su alcuni presunti rapporti tra ONG straniere peraltro e i trafficanti, improvvisamente tutta quell'area del centrodestra che prima considerava i magistrati cancro della democrazia, improvvisamente questo diventa un eroe. Allora, guarda che sarà curioso anche questo. Forza però nuova contro le ONG, ma caro Parenzo. Forza ma nuova. Ma arrestateli tutti contro ma le ONG. Ma arrestateli, gente. Ma perché in libertà sta gente? Ma perché, scusa, non possono esprimere la loro opinione. Sono andati a fare una roba che alcuni dicono violenta, una altri violenta dicono carnevalata. Ma sentire, violenta, hanno fatto una piccola manifestazione di fronte a una sede di ONG, non so che cosa, ma ognuno potrà... hanno intimorito degli onesti lavoratori che sono lì a fare quello che lo Stato non fa. Ma sono che... andati a intimorire degli onesti lavoratori, molti degli ONG però sono volontari, cioè molte delle persone che del personale nelle tu ONG sei sono veramente volontari. Un finto ingenuo, tu pensi che l'ONG, una di queste ONG, ti segnalo che nell'ultimo anno ha aumentato i suoi finanziamenti privati da 50.000 a 60.000 euro. Bravo, certo, sono arrivati 5 o 6 milioni di finanziamento. Bravo, ottimo. Questo significa meno male che esistono i che filantropi fare, che aspetta, finanziano quello che lo Stato non fa. Questo significa che raccogliere in mare le persone, raccogliere mamma in mare mia, le persone vicino mia alle coste libiche mamma per portarle in Italia, porta soldi? Probabilmente d'accordo con i trafficanti. Ma probabilmente, aspetta, probabilmente in accordo con i trafficanti. Avete già fatto le portare queste persone in Italia, evidentemente fa arrivare finanziamenti privati. Ma che dici? Finanziamenti privati, dunque si arricchiscono. Di che cosa si arricchiscono? Si arricchiscono. Andrebbero premiati, applauditi per il lavoro, invece vengono pure vilipesi per il lavoro che fanno. Si calcola da quante miglia sentiamo vanno. Forza Nuova. Quando un uomo è in mare, ti ha ricordato anche la Guardia Costiera, è un obbligo salvare le persone. Se non in diciamo mare cazzate, dai, questi li vanno a prendere sui barconi e loro, sai, i trafficanti sanno benissimo che verranno portati da queste ONG in Italia. È un accordo, c'è cioè un accordo implicito, è una di quelle esplicito propagande, non lo so, disumane che non ma che neanche propaganda idea disumana proprio. Ma smettila con queste cose, il dai lavoro onesto di ma chi migliaia dice di organizzazioni, ma chi dice niente, dico semplicemente che si arricchiscono con questa roba. Ma perché arrivano più finanziamenti? Ma che vuol queste dire arrivano più finanziamenti? Esibiscono la bandiera, ma salviamo vite umane, ma certo finanziamenti, soldi, questo è lo scopo. Ma che vuol nessuno dire fa il filantropo per niente. devi sempre andare a vedere cosa dove sono dire? I soldi. Nessuno fa sempre, il filantropo per niente. Sempre vedere dire? Dove circola il quattrino. Cosa vuol dire che nessuno fa il filantropo dovresti per niente? Essere prima e a saperlo. Nel Rinascimento, quando i mecenati finanziavano no, la sto cultura, che questo ma che è vuol NG. Dire? Meno male che i filantropi ci sono sempre stati, non c'è ricchi dicendo, miliardari non sto che dicendo, danno dei soldi, ma meno no, male. Ho capito. Ma questi qua prendono. Se fossero tutti dei tirchi del cazzo come te, sarebbero. No, eh sì, è così, manco la pizza paghi te. Fossero tutti dei tirchi come te, il mondo andrebbe a puttane, te lo dico io. Ma non come vorresti tu, sulla salaria. Andrebbe a. A ramengo, a ramengo. A ramengo, esatto. Non ce l'abbiamo noi, non ce l'avranno loro. Diritto alla casa, diritto al lavoro, non ce l'abbiamo noi. Non ce l'avranno loro! Scavisti! Scavisti! Scavisti! Scavisti! Scafisti, agghiacciante. Vabbè, è frutto quattro, della propaganda che anche contribuisce a fare coglioni, tu. Ma io è che frutto c'entro. Della propaganda, perché se insinui, instilli il dubbio che queste organizzazioni sono organizzazioni criminali, quando i criminali detto, sono quelli di Forza mai Nuova, detto, perché detto. I criminali neofascisti sono quelli lì, cioè rimettiamo le cose mai un detto, attimo in ordine. Detto. Allora, della Guardia Costiera ti fidi? La Guardia Costiera è comunista? La Guardia Costiera è Emergency? No. La Guardia Costiera è Moratti? No. La Guardia Costiera, che ti fidi della Guardia Costiera? La Guardia dice, Costiera con questi qua è dai. Un obbligo, ha detto oggi la Guardia ma cosa, Costiera. Ma certo, soccorrere quelli in pericolo, non quando tu parti col barcone e dopo 20 miglia già ti vengono a prendere. Non erano in pericolo, non sono in pericolo sempre. Senti, li vanno a prendere prima fido. Che crollino, Vincenzo, prima che affondino. Vincenzo Melone, Vincenzo ma Melone, ma chi ammiraglio, sono ma chi sono? Il comandante chi è? Generale chi della Capitaneria di Porto, bene, ammiraglio, e mi alzo in piedi, guarda, sì, l'ammiraglio. Che ha detto l'ammiraglio? Il comandante generale della Capitaneria sì, di Porto, l'ammiraglio, e mi detto, alzo in piedi e faccio il saluto sì, militare. Saluto. Vincenzo Melone. Cosa ha detto sto Vincenzo Melone? Ha detto che salvare le vite e chi umane ha detto il contrario? Se un uno sta negando, alzati in piedi. Ma io Vincenzo culo, Melone, io mi alzo in piedi, sto seduto. Sto seduto e mi bevo pure il caffè. In piedi. No, col cazzo. Col cazzo. Non alzati in piedi, chi se ne frega? In piedi adesso. Ma chi se ne frega? Perché Vincenzo Melone, ammiraglio della Capitaneria, pazienza, l'ammiraglio Vincenzo Melone. Vabbè, resta in piedi. La Libia non ha mai dichiarato l'area SAR, che tu adesso ti annoi, io dico che cos'è l'area SAR. Basta con queste robe. Basta, fammi sentire un ascoltatore. Basta con queste robe. Angelo da Verona. Lui dice: chi ha la responsabilità sì. di intervenire? Pronto? Dice sì, l'ammiraglio Vincenzo Meloni. Sì, alzati in piedi. Chiunque abbia notizie di una situazione di pericolo ma ha l'obbligo di prestare soccorso questi... e di condurre le persone salvate nel spesso porto più sicuro. Salva... Vincenzo Meloni, alzati in piedi. Ammiraglio, sei pazzo, sei. Alzati in piedi. Angelo da Verona, io sto facendo la puntata in piedi. Ma per pazienza, chi se ne va, stai in piedi. A me che cazzo me ne frega, dai. Giuseppe? Sì. Dimmi. Ciao, Angelo, ciao, dai, però. E parla però, cazzo. Ma io sono un autotrasportatore. Grande, e sì, vorrei, grande. Vorrei dire a Parenzo sì. che io mi faccio il culo giorno e notte. Sì, bravo, quando bravo, arriva a casa, bravo, senti l'altro. Fammi sentire, Angelo, la voce del popolo, la voce della gente. La voce non, del popolo. Non Soros. Non Soros. Non è Soros, Angelo. Soros, non dai soldi ad Angelo, capito? Non dai soldi ad Angelo. Mi faccio il culo, a me non mi regala un cazzo nessuno. Eccolo là, che lo fomenta. Perché gli butta il tizzone, capito? Gli butta il tizzone. Ma te ti ha mai dato dei soldi il signor Soros? Ma cosa dici? Ti ha dato dei no, soldi? Ma sei stupido. Se io non lavoro non prendo un cazzo. Conosci il signor Soros? Conosci il signor Soros? Conosci? Ma non me ne frega un cazzo a me del signor Soros, perché tanto non mi dà niente. Bravo. Ma chi ti deve dare? A te non comunque, ti dà nulla. Ma ti dà alla società, a te come persona, è ovvio che non ti dà nulla. Non ti dà nulla perché sei una capra. Cosa vuoi che ti dia Soros? Ma io ho telefonato per un altro motivo. Non ho telefonato per Soros e cose cattate varie. Soros. Per dirti che io faccio l'autotrasportatore, mi faccio un culo dalla mattina alla sera, rischio la vita tutti i giorni sul camion. Sì. Quando arrivo a casa, io vorrei stare tranquillo, nessuno mi deve venire a rompere i coglioni in casa ragione, come hanno fatto una volta alle 2 di notte e mi sono trovato nella stanza. Aspetta, aspetta, Angelo, non ho capito. Allora, vuoi stare tranquillo in casa? Dunque, io quando sono a casa che rientro al lavoro. Aspetta, dove sei? In che zona sei con sto camion, Angelo? In che zona sei? Aspetta, fermati un attimo. Niente, aspetta, richiamiamolo, ragazzi, dai. Mario da Roma, dai, richiamiamolo. Mario, dimmi, Mario. Sì. Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. Volevo dirgli che lui prende 9.000 euro per, come indennità per la sua attività. La prende 9.000 euro. Il vitalizio, e lui li dà ai suoi 7 figli. No, poverino. Che 7? 3 figli, dai, 2, 3. Ha detto che ne aveva 7, ma non lo so quando cazzo va scopando in giro. Ma però scusa, ma saranno affari suoi? Saranno affari suoi? Volevo dire che io i preservativi li pago... Tre preservativi li pago 8 euro. 8 euro. Cioè tu dici, noi paghiamo il vitalizio a Sgarbi che poi lo dà ai suoi figli perché lui non usa il preservativo, tu dici, no? Certo, se lui non è in grado di usare un preservativo, di mettersi un preservativo, siamo disposti a metterglielo il preservativo. Ma che c'entra questo col vitalizio? Il vitalizio l'ha preso perché è stato in Parlamento, non perché ha scopato, scusa. Un mese fa ha dichiarato. Sì, mi serve per dare... Mi serve, ma è a me che cazzo me ne frega che tu usi 9.000 euro per sfamare i tuoi 3 figli? Innanzitutto che cazzo ci fanno con 3.000 euro a testa i tuoi figli, Vittorio Sgarbi? Ma io saranno affari suoi? Come usa? Saranno affari suoi? 31 anni, non ho figli, uso il preservativo. Ma se quello non lo... Pago. Mario, ma se Sgarbi... La macchinetta, 3 preservativi mi costano 8 euro, ragazzi. Pure troppo perché costano. Perché non puoi partire un'altra battaglia dopo la battaglia per la legalizzazione della prostituzione? Questo è buono. I preservativi devono costare molto meno, hai ragione, sì, Mario. I preservativi sono arrivati a livelli da usura in farmacie, c'è tutto un disegno di legge per non farti usare i preservativi e scopare di più a rischio e a fare bambini. Ma ragazzi, che cazzo dici? Non dire puttanate. Sì, cioè, poi volevo dire un'altra cosa. No, aspetta, hai già detto troppo il culo a Sgarbi, gli leccate troppo il culo. Pare che lei abbia detto già abbastanza. Scusa, Mario, allora no. Primo, Sgarbi fa il cazzo che vuole, se vuole scopare senza preservativo, scopa senza preservativo. Ha fatto i figli che ha fatto, 2-3 quelli che ha fatto, li mantiene, che mi risulta che ne abbia di più, ma quelli sono affari suoi, li mantiene tramite, lui dice utilizza quei soldi per darli ai figli, ma potrebbe utilizzare anche gli altri, è un giro di denaro che fa lui, chi se ne frega. Non è che se avesse usato il preservativo o il vitalizio non gli dà un vitalizio. Ma non lo sto difendendo. A parte che io lo difendo, ma io lo difendo a prescindere. Io lo difendo a prescindere, chiaro? Ho capito, perché è un amico tuo, ma non credo che sia il caso. Non credo che sia il lo caso. Lo difendo perché è un genio. Ciao, Mario. Tu sei un cazzone. Sgarbi è un genio. Tu sei un coglione. Chiaro? Io uso il preservativo, Sgarbi non lo usa. Vabbè, pazienza. Ma chi se ne frega? Cioè, tu sei Mario da Roma e quello è Vittorio Sgarbi, chiaro? Ho capito. Allora, Sgarbi può scopare a destra e a sinistra perché c'ha 9.000 euro dei tordi nostri. Ma che discussione? Ma che c'entra? Ma quello comunque avrebbe il vitalizio. Cosa c'entra questo con i figli? Aspetta, dai. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognate! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Venerdì mattina facciamo una telefonata a Asmodeo. Speriamo che risponda Asmodeo. Che se non risponde Asmodeo, come minchia si fa? Asmodeo, ci posso ire sabato a trombare o no? Lascia stare. Non ci andare in tentazione, karma, piuttosto vai a chiesa, non ci andare a mignotte, lascia stare, karma, vati in chiesa, vati in Vaticano, vai a celebrare messa, aiuto Parrino a benedire tutto quanto. Non gira, pignotti. Sicuramente è questa la risposta che mi darà. Ma io me ne prego, vado comunque. Asmodeo, vai via. Ma in realtà non doveva Karma non doveva chiamare Asmodeo, deve chiamare Don Calogero, là come cazzo si chiama. Chiamare un'ambulanza deve chiamare. Don Cataldo, eh? Un'ambulanza deve chiamare. Ma lascialo perdere il Karma. Perché stai dando del matto al Karma? Perché dai del matto al Karma? Scusami, con calma, con molta calma. Ma ti chiedi perché? Scusami. Ti chiedo, io penso che la maggior, il 90.9% dei radioascoltatori che chiamanti, si sintonizzano ogni sera, no, quelli che ascoltano la trasmissione, sì, sono ovviamente d'accordo con me, cioè considerano quello che tu dici il Karma quotidiano, sì, il lo considerano Roma, sì, ecco, un coglionazzo. Dai, ma diciamola no, tutta. No, il 90.9. No, non te, alla, quelli che invece telefonano sono caricati, esaltati, tu ovviamente gli butti il tizzone in più nel fuoco che già è alto, no? E quindi questi si esaltano e hanno quel minuto di celebrità. Ora, il Karma quotidiano, come sì, tu lo il chiami, Karma quotidiano, stupendo, portandolo, sì, assurgendolo, no? A grande editorialista, columnist, sì, diremmo, sì, di, sì, questa, sì, sì, di questa latrina, di questo porcaio quotidiano, sì, di questo, no? Sì. Ecco, lo hai fatto diventare immeritatamente un metro a pensée. Quando no, invece ma è semplicemente... scusa, il Karma sta esprimendo una sua preoccupazione, cioè lui sta esprimendo, no, una sua, sì, un suo tormento in realtà, vorrebbe essere frenato da qualcuno, da questa sua esigenza direi quasi ancestrale di andare a Mignotte, sì, ecco, in sì, Austria, sì, e vorrebbe essere fermato da uno che lo confessi, deve essere, da uno intanto deve essere fermato dalla polizia, primo, se lo trovano lo fermano, secondo deve essere fermato da medici specializzati che lo prendono in cura e lo e gli, appunto lo prendono in cura, ecco, in cura se ne fanno cura. Allora Angelo, Angelo che ancora Angelo, cioè che vuole dire? Ancora, che dici Angelo? Ah sì, il camionista. Ascolta, io ritorno e dico, sì, io faccio l'autotrasportatore. Sì, sì, bene, ottimo. Avevo capito, detto che quando arrivo a casa vorrei stare tranquillo, rottura di coglione non ne voglio. Ti, sì, dico questo perché io, giusto, tre questo, anni fa mi sono trovato i ladri alle 2 di notte nella stanza da letto. Sì, allora, terribile, allora, terribile, allora terribile, non terribile, avevo né porto d'arme né niente. Niente. Oggi ce l'ho. Sì. E ti posso dire una cosa, dimmi, sia di giorno sia di notte, a casa mia... per entrare ci vuole il mio permesso. Beh, ovvio. Quindi questo, se giusto, entrano senza il mio permesso io gli sparo. Bravo. Un cazzo. Bravo, molto e bravo. No, gli sparo perché a casa mia bisogna bussare e anche se ti conosco e non ti dico di entrare, tu non devi entrare. Assolutamente. Vabbè, ma questo, vabbè, mi pare una cosa normale. Questo è una cosa normale. Cioè, se qualcuno faccio... entra, se tu trovi qualcuno dentro casa tua, nella tua camera da letto, mentre magari stai facendo del sesso con tua moglie, non so se sei sposato oppure no, magari frequenti dei trans, magari frequenti dei gay, ma no, stesso, nelle piazzole, non lo so, nelle piazzole, le piazzole, le frequenti le piazzole dei gay, quelle dei guarda, camionisti. Guarda, io no, le piazzole non è che non le frequento, quando mi devo fermare per legge che ho il riposo, sì, mi devo fermare. E che succede a in queste me... piazzole? Ma a me non me ne fotte un cazzo, anche per me gente come gli altri, ci parlo, ci rido e ci scherzo pure, qual è il problema? Ma non lo so, magari disturbano, bussano mentre dormi, no, che a ne me so, non mi disturba nessuno. Nessuno, guarda, io sono una persona molto sociale, però nel mio privato il cazzo non me lo deve rendere nessuno. Ma no, questo, ma questo va bene, io ho dovuto mettere le sbarre da ferro in casa, oh, perché mia moglie benissimo, la notte rimane sola. E se succede è... un incendio e dalla porta non può uscire, non può scappare neanche dalla finestra. Mettiamoci d'accordo. A casa mia deve morire senza il mio permesso. Deve e morire parendo la pentassa come cazzo gli pare. A casa mia ci vuole il mio permesso. Allora, ho il permesso di mia moglie. Proviamo per a usare un altro registro. No, però con ha ragione lei, che Angelo. Affabile, Angelo, che Angelo non dice di giorno, di notte, non me ne frega questo, nulla. Di ne queste ne cose da leguleei, di queste cose che decide il Parlamento, inutili. Di non queste cose inutili. A casa mia io voglio fare quello che voglio. A casa mia io devo stare tranquillo perché vivo in un guardi che è già così, signor Angelo. Voglio stare tranquillo, ma voglio caro girare Angelo, nudo, voglio premesso che mia nessu- moglie, ma, mi a parte che quello non avviene quello da tanto tempo, che evidentemente. Mi pare, Parenzo, non la pensare a modo sì, tuo perché non ha senso. Io, vabbè, Angelo, la abbraccio e interloquisco con lei con grande pacatezza. È vabbè, ovvio, ma io interloquisco, ma se tu te ne vieni sempre con il discorso, allora, lei a casa sua può già sparare, fare quello che vuole perché io c'è già una legge sulla legittima difesa. Lei a casa, se spara un ladro, sì, se spara un ladro, sì, poi sì, è ovvio, no, anche che anche se non è un ladro a casa mia non, beh, deve entrare, non entra nessuno, anche se non è, allora, un ladro a casa, posso rassicurare, ragione, a casa ragione, sua non entra nessuno perché non a avete casa amici mia non deve e siete nessuno, ma non viene nessuno, puttana, non si preoccupi, non verrà mai nessuno a casa sua perché lei è una persona aggressiva, triste e anche poco ospitale, quindi sì, molto triste, lei molto triste, lei è triste, quindi non si preoccupi che a casa sua non viene nessuno, quindi risolto questo problema. Sono venuti, coglione, a casa mia, beh, sono già venuti, sì, ma saranno scappati via perché hanno detto tanto, pure dietro, sì, d'accordo, se sarebbero tutti come te io non userei le armi, la cosa più ridicola, perché sei sicuro di che? Perché sono sicuro che un tipo come Parenzo me lo farei con le mani. Con le mani, vabbè, quello è un altro discorso. Parenzo non verrà mai a casa sua, Angelo, si mette il cuore in pace, guardi. Ma vai, Parenzo, a casa di Angelo, nessuna, vai a casa di Angelo. Parenzo non ha nessuna intenzione di andare a casa di Angelo. Parenzo, ma no, non ha proprio nessuna. Mia, cioè, ma neanche se mi dice, guarda, ti do 500 euro. Dico, no, non vengo. Ti do 1000 euro. No, non vengo a casa di Angelo. Non vado. Anche perché sei anche, sì, bruttarello tra gli altri guai, sì, non ha, è parlato che Landelon, ha parlato alla Landelon di Verona, benissimo, sì, allora ragazzi, poi un'altra questione che pone, sì, Angelo giustamente a modo suo, un'altra è questione che pone, sì, Angelo, sì, Angelo non mio, pone mio, questioni, aspetta, Angelo delira, non pone questioni, dice no, che vuole sparare a non chiunque, non sta delirando per niente, dice che vuole sparare a chiunque, voglio ricordare sommessamente Angelo che già è così, se qualcuno, allora, entra comunque, prova a rubare, lui la questione è questa, quando è la notte, quando è la notte, quando è il crepuscolo, bisogna calcolare che cosa, chi lo decide, il prefetto, chi lo decide? Decide il giudice, chi lo decide mio nonno, chi lo decide il ladro, Giuseppe, chi lo decide il guardiano, chi lo decide, esiste, dai su, per la me notte, non esiste il giorno e la notte, per me se viene a casa mia senza il mio permesso io ti stendo, vabbè, per terra, ma questo l'abbiamo capito, Angelo, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, il presidente americano Trump il 24 di maggio, dunque tra poco, sarà in Italia, Parenzo. Sarà uno spettacolo incredibile. Grandi manifestazioni. Ci saranno, coglioni inauditi che protesteranno contro di lui, sicuramente. Già lo dico, sì, già lo dico. Ma coglioni, perché sicuramente, è legittimo manifestare, non sì, ho capito. Sì, per carità, sono dei quelli che manifesteranno contro Trump, ah, il 24, sono dei coglioni. Ah, spero che lo tu posso dica dire? La stessa cosa di quelli di Forza Nuova che hanno assediato dei lavoratori onesti che assolutamente, fanno quello dico, che lo Stato dei coglioni, non fa. Dei coglioni, assoluti. Bene, dei coglioni assoluti. Bene. Quindi no, Forza ma non Nuova, per i motivi che Cruciani, dici tu. Cruciani, due punti, quelli che hanno manifestato contro l'ONG, quelli di Forza sono dei coglioni. Perfetto, no, no, abbiamo ma assolutamente. La notizia già alle agenzie, già battuta. No, ma siamo che c'entra questo? Sì. Che c'entra? Sto dicendo, sono, ma non per i motivi che dici tu, per gli onesti lavoratori, perché non c'è nessuna ragione per andare davanti oh, a non so quale male. ONG per dire scafisti, meno scafisti. Male, meno o male. O avete notizie certe male. Di una ONG che fa. No, è una pura che aiuta, gli scafisti, oppure state bene a casa, che è meglio. Allora, la questione è molto semplice. Ti voglio far ascoltare una cosa. Chissà se verrà accolta in Italia da un simil Colbert. Sai che è Stephen Colbert? È uno dei di quelli che fanno dei monologhi, di quelli che fanno i late show negli Stati sì, Uniti. Sì, vabbè, Genio assoluto, il quale ha attaccato in maniera virulenta, molto violenta, signor Donaldone. Trump, dicendo che la bocca di Trump è utile solo per foderare il pisello di Putin. Ah. Il pisello di Putin. Però. È bippato il cock. Senti. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head. In fact, the only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin's holster. Hai sentito? No? La bocca di Trump utile solo per foderare, come fodera del pisello, come no, come si dice? Sì, abbiamo no? capito, abbiamo capito, è chiaro. Del pisello di Putin. Allora ragazzi, Fabio da Palermo, vai Fabio. Fabio. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. Niente, io volevo un attimino dire un paio di cose a Parenzo. Allora, di prego. Solito io tendenzialmente prego, sono d'accordo grazie con lui. Grazie per essere intervenuto intanto. Adesso ti dico, Parenzo, in pratica, come allora, la pensiamo spesso nello stesso modo, però sì. Dato che tu ultimamente stai sì. attaccando quelli che chiamano che dicono che le ONG vanno a prendere, tu dici di no, che Zuccaro non c'ha niente in mano. Allora ti vorrei l'ha detto far lui, capire, non io. O comunque rendere conto. L'ha detto Zuccaro, scusa, io vorrei solo precisare questo perché sennò. Ultimamente, prima che Zuccaro tirasse fuori settimana scorsa tutta questa storia delle ONG. Sì. Un mese fa, due mesi fa, c'è stato un servizio eccezionale delle Iene, il quale dimostrava che non solo le ONG, le ONG andavano a prendere gli immigrati praticamente in spiaggia, ma anche la Marina Militare. Quindi ci sono proprio dei tracciati delle navi. Sì, era il filmato, in realtà era il filmato, era il video di un ragazzo, di un ragazzo su internet che ha spopolato, sì, Don Adele, il quale aveva con un suo metodo calcolato i tracciati, eccetera, aveva anticipato quello che è successo dopo. Vabbè, allora? No, dato che ogni telefonata che riceve Parenzo deve mandare a fare in culo le persone, dire non è vero, sono deficiente, le ultime telefonate che ho sentito Parenzo ha reagito. Vabbè, questo in non c'entra maniera. Niente, dai Fabio, ciao, ciao, ciao. Ciao. Comunque ragazzi, la cosa incredibile è che i 5 Stelle hanno presentato un sacco di disegni di legge contro i vaccini, però anche un deputato del PD lo ha fatto, anche un deputato del PD lo ha fatto e ha ritirato oggi, ieri, oggi, non ricordo, immediatamente questo disegno di legge sulla pericolosità dei vaccini. Bravo. Addirittura voleva fare una giornata in memoria delle vittime dei vaccini. Però deputato del PD, ma lo ha ritirato strumentalmente. Bravo. Lo ha presentato, lo ha ritirato perché è nato il casino, no? Va bene, ha fatto benissimo a farlo, però si è reso conto di aver fatto una stupidata. Ma non l'ha ritirato. È vero, riconosciamo che uno fa una cosa ma chissà giusta. Perché solo oggi l'ha ritirato, dai, che su. C'entra? Ha sbagliato per me a presentarlo. Ritirato il 3 maggio 2017, chissà perché. Presentato il 21 maggio 2013, quattro anni fa, e oggi ha ritirato. Ma dai, guardiamo anche il bello allora, delle cose. Facciamo risentire Sgarbi cosa disse a questa dei 5 Stelle per questa triviata giudizio. Sì. Lei è condannato per truffa allo Stato e percepisce un vitalizio di 8.000 euro. Io non ho fatto truffa a nessuno, io sono stato senza stipendio. La parola truffa è la perversione di un magistrato. Lei. Stai zitta, cretina! No, studia, no, studia! No, no, no. Fatela parlare questa che parla solo. Le per cortesia, Vittorio, no, ognuno dice la sua. Adesso parla Sgarbi, per cortesia, Salvatore. Mi dica qual è la truffa. Siccome la truffa riguarda danaro, io non ho preso una lira, per cui quando dice truffa, la dica a sua madre che ha fatto la truffa di fare lei. Lo dica, faccia così. Parlano di truffa. Studia, studia, incapace. Chiamiamo Vittorio, dai, chiamiamo Vittorio, vediamo come reagisce, sentiamo se reagisce a questa, a questo rinvio a giudizio in tribunale per aver offeso la grillina di Genova. Pronto? Vittorio? Sì. Siamo noi? Eccoci. Sì. Come andiamo? Bene, bene. Senti, ma che è questa storia dei 5 Stelle che ti hanno portato in giudizio? Una cosa incredibile. Stupidaggini. Dice bene l'ottimo avvocato Sicconi, la diffamazione non prevede la vista del diffamato, si chiama ingiuria, è un reato che non c'è più, l'ignoranza istituzionale. Sì, no, però tu le hai detto di tutti i colori a questa qua, gliene dette. Mi sono provocato, ho detto bugiarda, ignorante, incapace, disonesta, scemenza, proprio la prova di come non funziona. Per cui te ne fotti totalmente, no, perché questa qua dice, questa dice addirittura che lei è stata nella corsa a diventare governatore della Liguria. Sì, questo però È stata praticamente menomata da queste tue affermazioni, cosa che non mi pare possibile, no? Ma non vero delle cose, non cioè, dice che si chiama Salvatore, Alice Salvatore. E così diventerà un po' famosa per 10 minuti, non c'è reato da nessun punto di vista, ma il giudice è così ingiorante che chiama diffamazione dell'ingiuria. Pensa che punto siamo. Dico che un giudice che non sa distinguere diffamazione da ingiuria deve dimettersi e non devo dargli lo stipendio. Pagare un giudice che rinvia il giudizio una persona per questo è buttar via il denaro. Però scusami Vittorio, ma se uno gli dice a una, io per carità, io sono abituato, se tu dici a una, cioè la truffa l'ha fatta tua madre quando ti ha partorito, e questa qua dice, cazzo, è mia madre. Ho capito, ma guarda, ti ripeto, è ignorante come una capra. 3 volte ignorante, non so come si chiami e spero che finisca nel nulla, lei e tutti quelli che l'hanno inventata, e che sia che finisca nel nulla, ma dall'inferno, lei e il giudice con lei, stanno sul cazzo tutti questi qua, ma vanno a fare il culo, tutti. Ma tu tutti. Vittorio, però, però scusa, se uno dice la truffa l'ha fatta tua madre quando ti ha partorito, cretina, incapace, salame, disonesta, io sono dalla parte tua magari, perché so come usi queste parole. Ho capito, ma voglio dire che se tu sia duro e parli con me che sei mio figlio, capisco, ma ti ho spiegato che si chiama ingiuria. Ma non puoi decidere te quando è, che tipo di reato è. Cazzo, si chiama ingiuria, il giudice lo sa, il giudice è ignorante come una tappa. Non si può dire. Lei era davanti a me, ingiuria, non diffamazione. Ma ho capito, non decidi, ma non decidi tu, ma non decidi tu quando è reato, quando, che tipo di... Testa di cazzo, pronto, incapace, vaffanculo, hai rotto il cazzo, non c'è il reato, imbecille. Sì, scusa, Vittorio, ma no, è inutile che dici imbecille a me. Ma se questo qua... Non c'è il reato, non c'è. E l'ingiuria è stata derubricata. Ma non sei tu a deciderlo, è il giudice che decide. E il giudice è un altro incapace. No, ma non è incapace. Incapace, ignorante come una capra anche lui. Ignorantissimo, non è un giudice. È un sasso di PM. Ma no, vabbè, no, scusami, però abbi pazienza. Se un giudice dice allora, questa è diffamazione, non è ingiuria. È diffamazione, perché erano avanti a me, si chiamano ingiuria. Io adesso tu mi sei risposto quasi tutti che sei un cretino, un figlio di puttana, questa un pezzo di merda, un rotto di culo, come ti sto dicendo. Si chiama ingiuria, è rubricata. Vabbè, questo magari un giudice, io ti cito il giudizio. Ma non ha studiato. È derubricato. Non perda tempo, non inventi reati che non sì, ci sono. Che non deve avere. Era ingiuria. Sì. Lei non può procedere di fronte a uno che fa un'ingiuria. Dico a te, cretino, rotto in culo, finocchio, figlio di puttana. Bene. Siamo in giuria, non ti sto rifamando. Uno potrebbe dire è troppo facile così, cioè, Non è vero, perché l'ingiuria presuppone che tu abbia di fronte l'interlocutore, come era di fronte a me. Eravamo in televisione nello stesso programma. Sì, come no, certo, assolutamente. Allora, sì. Sto dicendo, ma non ti coglioni a me, quando devi fare il solito spettacolo e gli trovi uno che si incazza più di te. Mi avete rotto il cazzo, non chiamatemi più, mi avete rotto il coglione. Ma che c'entra? Ma che c'entriamo noi? Perché tu mi ho spiegato com'è, ma ho capito, ma me lo stai spiegando, io sto cercando di capire. Ho sbagliato il contatto. Sei ignorante come le capo. Ma sto cercando di capire quello che dice il giudice. Sto dicendo che il giudice non può essere ignorante, il giudice, da quello dicevo da tre giorni, che è ignorante quello lì, poverino Zucchero. Va bene, allora ecco, Zucchero, appunto, Zucchero, io appunto. Non è ignorante secondo te Zucchero, no? No, per me è bravissimo, ha avuto ragione, ho trovato, tra l'altro che ti ha dato ragione. Però se sono giorni e giorni che sentiamo quello ignorante, non posso dire che è ignorante questo qua. No, ma tu puoi dire quello che vuoi, figura. Ha toccato l'imputazione, quindi sì. È ignorante. A proposito, hai visto questa cosa dei vaccini? Quello prova che Zucca vuota, si vede che non è stato vaccinato da piccolo, come si chiama questo? Grillo è completamente rimessa alla meningite, cioè, ma è malato di mente quello lì. No, da piccolo non è stato vaccinato ed è il suo risultato. Cioè tu dici che questa cosa dei vaccini è ridicola, cioè dei 5 Stelle è una cosa patetica, è ridicola. No, dico che è vero quello che gli dicono contro, perché 18 anni fa o 20 anni fa questo qui ha detto questa cosa che abbiamo sentito, sì. Può anche darsi che non sia la linea politica del partito, ma è sempre Grillo. No, poi hanno fatto un sacco... Stronza una preside 20 anni fa, lo ripeto, una preside. Lui ha detto che i vaccini fanno schifo. Non potrà dire che non è una cosa che fa parte. No, ma non solo l'ha detto 20 anni fa, ma dopo molti suoi deputati hanno fatto delle campagne contro i vaccini, questo non si può negare. Quel verme, quell'inutile, un leader di partito che fa soltanto delle stupidaggini, che ha partorito solo della gentile, basta, cancellato anche lui. Comunque non avete avuto il cazzo. Che dobbiamo discutere di queste qui, non so chi siano, me la ricordo neanche. Sto lì a parlare, dicendo una cosa logica, e c'è una lì che fa la spiritosa, ma lei è stato condannato il vitalizio, la cosa, e che non la fa più. Me l'ha fatto venire in mente il giornalista che oggi mi ha detto, è stato richiesto il giudizio per colpa della Valentini. Come cazzo si chiama? Alice Salvatore. E dico, ma chi è? Pensavo fosse la pittrice Anna Salvatore che è morta negli anni 70. Dico, ma no, è una deputata di chi? Ma come fa a essere deputata? Ma restituisca lo stipendio a un deputato che non fa un cazzo tutto il giorno come questa, perché devo pagarlo? Si vergognino, si dimettono tutti i 5 Stelle prima di settembre per non avere il vitalizio. Questo non devono pagarla. È una che non merita lo stipendio. Lo ruba. Una che non fa niente tutto il giorno ed è pagata 15.000 euro al mese, è uno scandalo. Tu dici che pagare lo stipendio a questa qua, Salvatore, è una cosa inutile, è un crimine. Oh, pronto? Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. È caduta la linea. Per una, volta non sei stato tu, eh. Per una mi volta pare, non sì, sei l'hai stato. Fatta arrabbiare, mi pare che abbia detto abbastanza, però no? Sì, più cose sì, che si sì, può sì, sì, no, aggiungere. Assolutamente. Cioè, devo dire che non ha una grande considerazione di questa grillina, ma nemmeno mi di aver capito di no. Nemmeno di Grillo, nemmeno no, di Grillo. No, non ha una grandissima stima, diciamo così. Sì, bravo, bravo. Francesco, provincia di Rimini, vai. Zucchero la la la la la la zucchero la la la la la la zucchero la la la la la zucchero. No, facciamo un coretto, vai Francesco. La la la la la zucchero la la la la zucchero la la la la zucchero la la la zucchero Boccassini la la la la la Boccassini. Francesco, adesso torno con te, però chiudiamo, adesso c'è la pubblicità, però Francesco, chiudiamo con questa cosa qua, perché ha fatto vedere una luce, ci ha dato un po' la linea il signor Zucchero. Ha dato la linea. Sì, ci ha indicato, un percorso, ha dato la linea, un giudice, un po' di luce in queste tenebre del politicamente corretto, nelle tenebre. Francesco, intoniamo questo coretto. La la la la la zucchero la la la la la zucchero la la la la zucchero gli avete tolto quell'autorevolezza. Bravi, fermi tutti, poi torno con te Francesco. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara, la zanzara. Fidati di un miserabile, fidati di un miserabile. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La zanzara. Cazzo, io senza la zanzara in sottofondo non riesco a lavorare. Non potete fare delle puntate di 5-6 ore? David, senti, io vorrei fare parte della maggioranza silenziosa. Non parlo di porcherie, per carità. Però a me il teatro fa proprio cagare. Posso far parte anche se il teatro mi fa cagare. Non vado mai. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero. Allora, torniamo subito con Francesco dalla provincia di Rimini, che ci ha regalato questo coretto in onore del professore emerito Zucchero. Ragazzi, non credo che sia professore, Zucchero, semplicemente un magistrato che è andato in giro a fare delle interviste prima di avere delle prove in mano, dicendo che non riesce ad indagare. Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura gli ha detto: vada avanti nelle indagini, forniremo, come è giusto che sia, tutti gli strumenti a che lui riesca a condurre a termine le sue indagini. Ottimo, per ora non allora ha niente, che male ha fatto. Per ora non ha che niente in mano. E il CSM ha altresì detto e aggiunto che quando un magistrato si pone nei rapporti con la stampa e con l'informazione dovrà rispettare un codice di comportamento. Questo è il fatto. Se poi voi volete romanzare che in tutto questo fate il tifo da stadio, condannate le ONG, beh, adesso direte questo, no, il no, CSM no. attacca le ONG, cioè stravolgere completamente la realtà, lo potete fare. Però, ma dite, io e Francesco facciamo questa cosa. Francesco, Francesco, come facciamo noi? Come facciamo noi? Zucchero la la la la la zucchero la la la la la zucchero. E intanto vi faccio ascoltare, resta lì dalla vostra parte. Librandi contro tutti. Sentite. I reati sono in diminuzione. E quindi questa è una trasmissione di disinformazione. Ma perché deve perché si deve coprire sempre il ridicolo? Dare la parola ai cittadini di disinformazione. L'informazione la fa direttamente il governo. Buoni. Che così facciamo un po' di brandi. Siccome facciamo disinformazione quando diamo la parola ai cittadini, evidentemente bisogna darla soltanto ai brandi. Mi fate vedere. Ancora con sta puttanata che i reati sono in diminuzione. È una puttanata, Librandi. È una puttanata. E poi che calcolo è? Lo 0,30? Il 3,5? Cosa c'entra? Ci sono una marea di reati che non vengono denunciati. Cosa c'entra? Su quali anni fai questa differenza? Cioè, non la fai tu la disinformazione. Non la facciamo noi, non la fai dalla vostra parte. La fai tu la disinformazione. Mannaggia, signor Librandi. Sì, sono diminuiti del 3,4, dunque siamo più sicuri. Ma che cazzo dici, dai? Lei è un insultatore. Vero. Librandi contro Sicignano, te lo ricordi, signor Sicignano, un mitologico Sicignano, quello che uccise il ladro, no, a Vaprio d'Adda. Sì, sì, quello grande. Sta più nelle ormai ha ucciso, sta più in trasmissioni televisive lui, tu sai, di Zagrebelsky. Cioè, no. Ma sarà un paradosso che uno, ma veramente incredibile, tu uccidi per legittima difesa, per carità, vai in televisione più tu di Gustavo Zagrebelsky. No, ragazzi, ma voglio dire, ma tu sarà... stai dicendo che Sicignano va in televisione perché ha ucciso, questo è vero, però, che perché ha ucciso qualcuno. Scusa, allora... no, con tutto rispetto, perché cosa va? Perché ha scritto la Divina Commedia? No? Perché ha scritto dei sonetti di William Shakespeare? Cioè, detto il bardo, che non è pardo quello di Tiki Taka, è il bardo! Non c'entra con pardo! Capito, ragazzi, ma chi deve andare? Ma perché deve andare in televisione? Allora, perché lo Zagrebelsky? Ci va Sicignano! Va più perché in televisione. Ha qualcosa da raccontare! Zancan, Zancagnan, come si chiama? Zancan. Sì. Ecco, benissimo. Zancan, che anche lui, voglio dire, fa la sua parte. Il gioielliere armato. Benissimo, d'accordo. Sicignano. Cioè, pieno di gente che spara in televisione e Zagrebelsky non c'è. C'è un po' una sperequazione in questa cosa qui o no? È un po' o no? Ma dai, ragioniamoci su. E lui dice così, liquida tutto così. Ragioniamo. Ti abbraccio. Il professore, il preside della Normale di Pisa, Salvatore Settis, lo vedi mai in televisione? Beh, no, perché Settis? La gente spegne. Ma non è normale, vedi uno che spara però. Ma ragazzi, ma capisci che il mondo è al contrario se ci pensi? Se ci pensi c'è il mondo al contrario. Salvatore Settis, uno dei più grandi intellettuali. Tommaso Montanari, uno dei più grandi intellettuali italiani. Filippo Daverio, Fuxas, ti faccio le Filippo Daverio no, ci sta in televisione. Ogni tanto, meno di questi che sparano. Ma è incredibile. Dice, per andare in televisione, che devo fare? Devo sparare per legittima difesa. Vado in televisione. Stai insultando Sicignano? No, stai insultando un onesto cittadino di Vaprio d'Adda. Un pensionato che ma ha reagito ad un ladro e gli d'accordo. Ha sparato. Si è e candidato con Forza con lui. Italia. Si è candidato. E adesso, aspetta. Siamo tutti con lui. Ti dico quest'altra cosa. Faccio sommessamente, quasi in silenzio, notare. In televisione, se spari a qualcuno vai, Zagrebelsky non va, capito? Vabbè, cioè, ha più da dire uno che spara che non uno che scrive dei libri, che ha delle idee, del pensiero. Questo è quello sì, che c'è però, oggi. Sicignano, ti segnalo che si vuole candidare adesso con la signora Meloni, con Fratelli d'Italia. Vabbè, sempre quella, vabbè, ho capito. Perché siamo diventati la discarica della delinquenza dell'Europa, del Nord-Est, perché noi abbiamo esportato le aziende all'estero e abbiamo importato la delinquenza. Questo non si chiama fare politica. I cittadini che si lamentano, ma per piacere li buoni, ma dai, stia zitto un attimo. Le forze dell'ordine funzionano benissimo. Ma insomma non è possibile. Io ho imparato. Uno viene io che lì, sono dice tutto quello arrivato, che gli viene in mente. No? Impari anche l'Italia a lei. Fa schifo, basta. Ascoltare. Ma andate da un'altra parte no, a vivere. Ci vada no? Lei perché lei è già. È no, già vada lei. Io l'Italia la io adoro, amo questo l'amo, paese. Capisce? Lei non lei lo ama. Dice che questa è la discarica. Lo Stato difende per me non è la discarica, è il mio paese. Lo Stato deve difendere i cittadini. Perché uno non può vivere. Mi fate vedere Boccea, gli abitanti di Boccea? È bello che a un certo punto arriva Belpietro e dice dopo che questi sono scannati sì, lei la d'Italia la discarica maledetto. No tu non ami il tuo paese vergogna cioè mi fate vedere gli abitanti di Boccea mi fate vedere che ovviamente vedete, saranno lì piazzati sono quelli che hanno insultato prima Librandi bastardo pezzo di merda infame lurido ladro e Librandi sta lì che sì, gongola sì. Adesso apriamo Boccea senti c'è un'altra cosa che ti voglio far ascoltare sempre nella medesima trasmissione dalla vostra parte c'era il ritorno della signora Rosina. Adesso va bene tutto ragazzi noi possiamo avere commesso sicuramente qualche piccolo errore quando abbiamo chiamato la signora Rosina la quale era stata portata sotto casa di un marocchino insieme a dei militanti indipendentisti veneti e un marocchino agli arresti domiciliari perché voleva giustamente protestare contro questo marocchino va benissimo l'abbiamo affrontato ci abbiamo scherzato eccetera però non mi dite niente la signora Rosina compare in televisione armata di forcone con un forcone in mano e anche lei fa parte di questo grande teatrino. Ragazzi, signora Rosina, va bene tutto. Noi le siamo vicini, per carità, è stata aggredita il ferro da stiro, là tutte queste storie. Però, amica mia, adesso pure lei sta al gioco. Sta al gioco, viene invitata a parlare non del suo caso, viene chiamata a parlare in generale delle cose che riguardano la sicurezza e si scontra col signor Ribrandi. Cioè è entrata, volente o nolente, Parenzo, è entrata a far parte del grande teatro della televisione, dunque non può rompere i coglioni dicendo no, però voi mi trattate male. E beh, amica mia, se vai in televisione a combattere con Librandi, poi non ci devi rompere il cazzo, però, Certo. Ma le dico a Librandi. Senza litigare. Dico solo a Librandi. No, no, ma arriva Librandi, vedrà. Dico solo a Librandi, che è di parola come le putane. No, adesso, buona, vedrà che è di parola. È di parola come le putane, Librandi. Rosina, non è vero, vedrà che Librandi è di parola. Librandi è di parola come le puttane. Questa è la signora Rosina, che molti di voi che siete all'ascolto in Veneto, compresi gli indipendentisti, hanno appoggiato contro di noi. Hanno appoggiato contro di noi, no? Sfruttando un episodio, un nostro gioco, un nostro scherzo alla zanzara. Avete appoggiato questa signora che dice a Librandi che parla come le puttane. La signora Rosina. La signora Rosina. Vabbè, comunque. Oh, io la voglio bene, la signora Rosina. Sì, però tutti è noi. Entrata a far parte, no, in pieno ormai, di questo grande teatro, di questa grande commedia, sì, bravo, bravo, che bravo. È la televisione italiana. E in particolare dalla vostra parte, con le trasmissioni di questo tipo, che va benissimo, noi amiamo, noi adoriamo, però ormai è una protagonista a pieno titolo. Dunque c'è tutto il diritto di dire alla signora Rosina, lei esagera, lei sta dicendo delle cazzate. Signora Rosina, non dico niente. Perché non dici non niente dico, alla signora no, Rosina? No, non dico niente, rispetto Hai paura della signora Rosina? No, ho paura. Sì, hai paura. Adesso te la fai sotto perché sei stato criticato dai veneti? Come faccio sotto te mai la fai niente. Sotto? Per un, per un indipendentista lì, qualsiasi? Quegli indipendentisti dai. Lì mi devono venire a pulire le scarpe a me e anche a Soros, con cui ho parlato prima. Hanno chiesto, Soros ha chiesto se gli puliscono le scarpe quegli indipendentisti lì, quei forconi lì. Ma ciò detto, ripropongo la, come dire, la riflessione che provavo pacatamente a fare prima. Sì, mamma mia. Come mai va in televisione chi spara? Chi spara? E invece compresa Rosina col forcone, dici? Anche chi non spara? Gente armata anche di forconi va in televisione, sì. No? Cioè, tu stai dicendo Rosina va in televisione, no, Zagrebelsky no. Tu stai dicendo questo. Sì, tu lo dici. Tu lo ma dici. No, io. Cioè, detto, sì, meno io ho detto Rosina, anche più Zagrebelsky no, no, no, stai ho dicendo. Detto questo, sì, come non no. Ho detto questo. Come ho detto no. Meno gente che spara in televisione. Meno gente con i forconi. E forse proviamo. Più professori, dici, più professori. No, più persone che magari... Esatto, più professori, esatto. Alessandro, dico solo a Librandi. No, no, ma arriva Librandi, vedrà. Librandi che è di parola come le putane. Ma poi scusa, perché un'altra riflessione che si può fare? Perché sì. Le puttane non sarebbero di parola, scusa? Ma guarda che è incredibile questo questa cosa. Interessante. Ma scusami, insulta le puttane. Ma perché le puttane? La signora la nostra amica di Pordenone, la signora Lucia di Pordenone. Perché no. Non è di parola? Quella. Non è di parola Lucia da Pordenone. Primo, quella lì non è neanche una prostituta. Ma come no? È una prostituta, quella. Ma non è di non parola che mai... è una mentitrice. Perché quella la signora non Rosina non ha mai esercitato perché in vita la sua. Signora... Non batte chiodo come no, si ma dice perché in la gergo, signora quella. Rosina non rispetta le prostitute? Spiegamelo, perché non le rispetta? Francesco, ma lo so, evidentemente no. No, scusami, Francesco. Francesco, dai. Eccomi, no, datemi intanto una camomilla a Parenzo che è un po' citato, ma in realtà no. Io volevo parlare di un'altra cosa. Di che volevi parlare? Di Milf e Cougar. Milf e Cougar, ottimo. Allora, io ho 29 anni e come tutti quelli della mia generazione, quindi più o meno quelli nati negli anni 80, siamo cresciuti con l'idea della Milf perfetta, che è la mamma di Stifler, del film American Pie. Te Parenzo, sì. Che su queste cose sei un po' ignorante, vai. No, American Pie, no, veramente no, sul Parenzo cinema, sul cinema, non no. Mi cogli impreparato. American Pie l'ho visto, è un bellissimo bravo, film. Vabbè, bravo, allora perché lo devono vedere tutti. Quella è la MILF perfetta, secondo insomma i canoni standard. Invece per quanto riguarda le cougar, sì. Volevo dire l'algoritmo che si utilizza per stabilire se una donna può essere definita cougar o meno. E qual è sto algoritmo? Età della donna, sì. ISO 2 più 7. Allora, età cioè, della donna? Diviso 2 più 7, questo non l'ho inventata io. Età della esiste, donna, diviso 2 più quindi, ad 7. Esempio, una donna di 40 anni, diviso sì. 2, 20 sì. più 7, 27. No, ma quella se non è una cougar. 27, no, 27 è il cutoff. Se va con uno di 27 anni o più giovane, è una cougar. Se invece va con una di 28, 29, 30... Ma diciamo, questo mi sembra una cazzata, scusa, aspetta. No, no, no, no, questo ripeti, età della donna, quindi, diviso 2 più 7. Diviso 2 più 7, si può applicare anche con... Cioè, se una donna ha... Se una donna ha... Ma che c'entra questo? Se una donna ha 50 anni, diviso 2, fanno 25, giusto? 25, più 7, 32. E che, allora? Se va con un uomo di 32 anni o meno, o più giovane, è una cougar. Bah. Ah, dici così. Non l'ho inventata io. Questa è una formula che è stata inventata dai massimi esponenti. Cioè, tu dici una donna di 50 anni, se va con uno di 32 o sotto i 32, è una cougar, è una invece cougar. È sopra, è una relazione, diciamo, che sta nel parafisiologico, ecco. Nella normalità, dici. Nella normalità. Ok. Va bene, dunque ci volevi dire come si calcola una cougar praticamente. Esatto. E comunque Francesco? Zucchero, la zucchero, la zucchero, Omar da Milano. Settis, la Salvatore, settis, la. Omar, dimmi. Pronto, ciao a tutti. No, io volevo fare un intervento velocissimo su un paio di cose. Allora, c'è stata il 25 aprile... è la commemorazione al campo 10. Sì. Sei andato? Assolutamente sì. Cioè, assolutamente, tu sei uno di quelli che ha fatto il saluto romano? Ma assolutamente sì. Abbiamo assolutamente il numero, vero? Sì. Abbiamo il numero, sì, di questo, giusto? Sì, Omar, sì, certo. Omar, non ho capito. Lei l'ha lasciato al centralino. Tu numero, sei andato a fare il saluto romano là. E poi che hai fatto? Dopo oltre al saluto romano, in onore di Mussolini, che hai fatto? Ma che è in onore di Mussolini? No, in onore dei morti della Repubblica Sociale. Sì, vabbè, quello che cazzo che è. In onore dei criminali della Repubblica Sociale Italiana. Sì, tutti criminali. Tutti gli anni. Tutti i criminali al servizio, erano al servizio dei tedeschi, cioè combattevano con una potenza straniera. Beh, certo. No, quello sicuro, quello sicuro. E questo, ragazzi, non è... Combattevano al fianco dei tedeschi contro l'Italia. Ma questo è così, però, mi dispiace per voi. È vergognoso il fatto che ogni anno siano degli vengono identificati le persone, ma intanto ogni anno se lo prendono nel culo Lampi, la Boldrini, Parenzo, perché intanto non viene mai condannato nessuno, perché il saluto romano non è reato, ragazzi. Vediamo. È reato. Beh, vediamo. Non so se tutti gli anni si radunano così tante persone. Ma te lo garantisco. Cioè, un numero uguale di persone ogni anno? Assolutamente. Adesso assolutamente. Che lo sappiamo, faremo una bella recata l'anno prossimo. Vuoi denunciare Omar? Vuoi denunciare Omar? Lui in automatico. Quelli del libero pensiero, però. Vuole denunciare Omar, il quale si è praticamente auto cioè, ha alzato si le reso, mani si è ha, confessato, ha confessato si è consegnato bravo si è consegnato consegnati. Sì, esatto, come tutti consegnati. Gli anni, ogni anno. Omar, e poi... dice: io sono stato tra quelli che ha partecipato al raduno neofascista, chiamiamolo così, di nostalgici in onore dei morti della Repubblica Sociale Italiana. Ho fatto il saluto romano, poi che avrei fatto qualche canto, qualche cosa. No, Omar, che hai fatto? Ma no, ma assolutamente, ma il problema... Ma come si è svolta questa roba? Come si è svolta questa riunione? Ma come tutti gli anni, in marcia, e poi si va a rendere onore ai caduti della Repubblica Sociale. Ma detto questo... Ma Parenzo, ma sei una goliardata, è una roba di... Ah, ma sì, ma dai... No, non è una, no, lo vedremo in tribunale, se è una goliardata. È meglio, ti assicuro, ti posso dare un consiglio, definiscila una goliardata. È meglio definire una goliardata. No. Non lo credo proprio. Cioè, tu credi nel fascismo? Credi nel fascismo tu? Ma assolutamente. Nel ritorno del fascismo. Eccolo qua, Volpe Pasini scrive: non insultare chi è rimasto fedele alla bandiera e alla nazione. Ma va a quel paese, Volpe, ma vai a quel paese. Fermo lì. Mamma. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La Zanzara. David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans. Papà sta andando a trans, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans. Solamente con i trans. Ribadisco, con i trans. Ormai piagnucolante il fanciulino, gli chiede padre cosa sono i trans. Ma come fa a spiegare al suo infante? Sono donne dal clitoride ingombrante. Gli dice: il trans è una cosa bella, è come aver fratello con sorella, ma uniti in una persona sola. A me la zanzara non è che piace, a me la zanzara serve per vivere. Papà sta andando a trans, ho già l'appuntamento e tu mi stai trattenendo. Allora ragazzi, Davide, io chiamerei quello che tu hai evocato prima. Hai sentito che bellissima la canzoncina dell'ascoltatore su Parenzo sta andando a trans. No, no, Davide sta andando a trans. È la uscito per l'aperitivo con Clonchetti. No, ma fallo Lorella, rientrare, fallo rientrare che adesso deve affrontare con Zancan. Dottore Cucinelli deve... Cashmere. No, Dottore Cucinelli invitato a Dottore Palenzo non vuole parlare clitol, polchelì e cose trans, no, no, palla. Zancan, il gioielliere che ha subito rapine, che ha subito rapine, quello che fa la collezione, ecco, la collezione di gioielli con, a forma di pistola, a forma di pallottole, Zancan. Vai col telefono. Pronto? Zancan? Ci sono, eccomi qua. Eccoci qua. Allora, hanno approvato questa cosa sulla legittima difesa. Che dici? Una buffonata? Una gran cagata. Eccolo. Scusami il termine, ma perché? Perché una gran cagata? Ma dai, cosa ha fatto? Un calendario venatorio nuovo? C'è il calendario della caccia? Di notte sì, di giorno no, ma cosa stanno facendo? Cioè, non esiste, dai, così che sono dei dementi, non va bene, non va assolutamente bene. Scusa, sono dei dementi. Era meglio che non facessero niente a questo punto, perché così non ci siamo. Scusami, no, ma tu hai fatto tu e le tue rapine. Ma Zancan, a che titolo dice che non ci siamo? A che titolo? Cioè, come sparatore, non ho capito. Ma uno ha subito, no, è un gioielliere che ha subito, è un gioielliere che ha subito delle rapine. E quindi è più titolato di altri a dare un giudizio sulla legittima difesa? Ma perché? Chi sono? Sono i professori che possono intervenire? No, tutt'altro, ma sicuramente far diventare Zancan un maître à penser, un signore che peraltro fa pure degli orecchini, non lo so, degli ori a forma di pistola e di pallottola, beh, non mi pare il massimo, diciamo. Ma perché del... non può parlare, non ho capito Zancan. Certo, chi ha detto che cosa non può pazzesca, parlare? Dai. Ho detto semplicemente farlo diventare l'esperto di come si spara, sicuramente intanto è esperto subito, su come si spara, intanto ma... ha subito delle rapine di giorno, giusto e Zancan? Quindi? Le ho subite le rapine che ho subito, le ho subite in tarda di notte, beh, quelle che ho subito in casa era di notte, sì. E sulle attività sì, era buio, comunque era verso sera, era sull'orario di chiusura, sì, sì. Sì, ma anche lì è assurdo che uno si mette là a discutere la notte, il giorno, ma c'è anche di peggio, no, perché dicono vabbè, di notte va bene, però dopo la discrezionalità resta sempre il giudice, perché deve capire quanto turbamento grave hai subito. Ma chi è che ha un metro di misura, un sistema per misurare questo, mi chiedo io, chi è che può capire se allora sei stato, se per il giudice sei stato turbato poco, allora ti condanno, se sei stato turbato tanto, allora no, allora... Ma cosa dici? Ma che è il giurì, un giurista? Tu dici che non ha capito niente. Non ha capito niente. Non ha capito niente del senso della cosa. Adesso può piacere. Zancan. No, Valenzo, informati, sì. Provi a informarti un attimo. Sì. E fai serio una volta ogni tanto. Che stiamo parlando di una cosa seria. Molto stiamo seria. Scusa. Molto seria. Infatti il fatto di affidarla a lei, di affidare a lei il commento ci dà l'idea, no? Comunque. Ma che c'entra? Perché non può parlare? Ha subito ma delle... certo che può parlare, ma adesso... voglio ricordare che questo simpatico signor gioielliere, che purtroppo ha avuto delle terribili rapine, e questo ovviamente non mi dispiace, è un signore che dopo le rapine si è inventato addirittura, e quindi non gode della mia simpatia, diciamo, a differenza di altre persone che sono state rapinate. Dormirò sonni sereni per questo, anziché... dormirò sonni sereni, allora? Si è addirittura inventato una linea di gioielli con delle pallottole. Ascolta Parenzo, capito? Quindi è il mio lavoro, cioè è la mia vena creativa, sì. Dunque tu la mia vena creativa, d'accordo, fare quello che faccio io, perché io vado a lavorare a 70 famiglie, ok, e ho un indotto di 100 famiglie. No, tutto, io ho ricordato tutto, solo mi viene a criticare quello che faccio io, perché io di male non ho fatto niente. Ma no, ho detto che fa male, ho detto che lei su quella tragedia che ha subito poi ci ha costruito un piccolo business. Dirò di più, caro Parenzo, che una parte del ricavato di quella linea io l'ho messa a disposizione per chi ne ha di bisogno. Bene, meno male. Va bene. Ma l'idea di creare una linea di gioielli con le pallottole un po' mi fa orrore, posso dirlo? Posso dirlo? Visto che lei è uno dei portavoce dello spara subito, spara adesso. Parenzo, a me mi fa più orrore 20.000 delinquenti liberi per le strade che dovrebbero essere in carcere. Ma certo, ma chi? Carcerati per lo svuota carceri, per l'indulto. Mi fa orrore vedere mille agenti per imporre un delinquente super patentato che si chiama Igor. Quello fa orrore, cazzo, no? Quello che faccio io. Però scusa, Zancan, su questo ha ragione. Ma Zancan ha ragione perfettamente. Eccolo. Ma perché uno non ha il diritto di inventarsi una linea di gioielli con le pistole, con i bossoli? Che è un'istigazione a sparare, secondo te? Ma ho detto arrestate secondo te è un'istigazione a sparare? Ho detto che è cattivo gusto. Hai detto che è un'istigazione a sparare. Ma io ho detto un'altra cosa. Ho detto che giudico questa roba di assoluto cattivo gusto. Ma chi se ne frega del cattivo gusto? Specie perché lui è diventato uno dei simboli dello spara ora, spara adesso, spara comunque. E quindi il fatto che questo signor Gioielli, caro Parenzo, finché non lo fa qualche dunato di dovere nei miei confronti, lo devo fare io, perché io devo difendermi stesso, la mia famiglia e i miei dipendenti. Ma nessuno qualora il sistema barra stato mi mette nelle condizioni che le forze dell'ordine possono agire in mia difesa, io depongo armi e rabbia e sono l'uomo più contento. Comunque ragazzi, è vero che all'interno della legge che è stata approvata c'è scritto lecito sparare in conseguenza di un grave turbamento psichico. Chi esatto. Cazzo lo certifica sto suo grave turbamento psichico? Chi cazzo lo certifica? Ma che è chiaro che uno, quando si trova di fronte, uno ha un turbamento, no? Ma che vuol dire, dai? Siete simpatici tutti e due, eh? C'è un caso recente che riguarda quella guardia giurata che ha sparato, che è mio conoscente anche oltretutto. Questa guardia giurata ha sparato, pare che non fosse in servizio, ancora non si sa se era in servizio o non era in servizio. Ha fatto bene secondo te a sparare a quella e uccidere quella? In quella circostanza lì cosa doveva fare? Certo che ha fatto bene, cioè cosa fai? Ti fai cioè va premiato sia per il fatto che comunque è andato in soccorso delle forze. Non è il discorso di premiare, è il discorso che lui ha fatto il suo dovere, lo si è girato da un'altra parte, ok? Caso, ma chi è che mette in discussione? Ma adesso Zancan è anche un giudice, un avvocato, ma chi è Zancan? Cioè non ho capito, adesso Zancan chi è? Tu dici Zancan, uno di meno, dici. Zancan, te lo spiego io chi è Zancan. Zancan è uno che ha subito tantissimo, è vivo tre volte per miracolo, perché potevo morire per tre volte, soltanto che sono stato graziato, ok? Da queste basi. Ma questo nessuno lo mette in discussione. Ma questo è quello che è successo a me. Io non ho mai difeso lui una sta sola dicendo, volta un criminale. Lui sta dicendo uno di meno, giusto? Esatto, uno di meno, uno che rompe i coglioni di meno. Perché i delinquenti devono imparare che anche loro hanno da rimettersi, e tanto anche, non solo noi. Questo non è sbagliato, Davide, però, che dici ma tu? Ma che cazzo vuol dire? Ma dire che vuol dire uno di meno? Ma che vuol dire? Ma certo, se uno è un criminale deve finire in galera o criminale, no? Ma lui è contento che... È contento e sei contento perché è morto, e vabbè che sia contento perché è morto, è fatto così, va bene, è contento, ha subito... Aspetta. Guarda, provo a giustificarlo, ma non ci riesco solo perché ha subito delle aggressioni e quindi forte di questo dolore lui è così rabbioso e quindi posso capire quella rabbia. Non è solo rabbia. Certo, dopodiché che lei diventi il portavoce dello spara ora, spara adesso, fa la sua linea di gioielli. Ma sono i ragazzi suoi questa linea di gioielli. E ora ci viene a spiegare cosa non va nel testo approvato purtroppo solo alla Camera. Perché solo i professori possono giudicare? La conduttrice della trasmissione dove lei ha esposto i gioielli ha detto che è stato un errore mettere i gioielli in televisione, far vedere quella catenina eccetera eccetera, la signora Merlino ha detto sbagliato, non dovrebbe farlo, vedi, eccetera, eccetera. Guarda, lo sapevano? Ascolta, io mi metto al collo quello che voglio, cioè non è che sia vietato. Ma per carità, va a mettere quello che vuole, ma certo, infatti va bene, ma allora ma assolutamente. Ma poi il diritto di dire anch'io che mi sembra di cattivo gusto, posso? Come quelli che si mettono il teschio. Mamma mia, ragazzi, ma io non lo so. Ma li ho fatti perché se li vuole comprare. Ecco, chi se li vuole comprare è una persona di cattivo gusto, te lo dico tutto. Te lo dico fino in fondo. Perché sembrano delle supposte, peraltro. Quelle pallottole sembrano delle supposte. È come se tu avessi disegnato delle supposte. Ti piace così? A te, Cruciani, piace l'utilizzo di quelle supposte? Mettetevi le supposte. Vi sembrano eleganti degli orecchini fatti a supposta? Mettetevele dove non batte il sole. Mettetevele lì quelle supposte, dai. Ha ragione che sembrano dei supposti, le ho fatte pensando a Parenzo, perché le dovrete prendere via orale anche. Beh, questo va bello, però via orale le sì, perché uno che ha la faccia così solo via orale se ne può prendere. Va bene Zancan, no, ciao Zancan, bene, tutto, ciao. Salute. Ciao. Sì, salute. Adesso la voce. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cosa ne pensi della Zanzara? Siete volgari, mi fate venire gli incubi la mattina quando il mio fidanzato si ascolta La Zanzara, mi fate venire gli incubi. La domandina per Parenzo: se mi entra un ladro in casa verso le ore 16, io gli punto la pistola fino alle 21. Alle 21 sparo. Sono in regola o sono in torto? Allora, caro Parenzo, l'ottimo blog Roma sì. Fa schifo, perché effettivamente noi puntiamo sempre il dito contro Napoli, ma su Roma ci sarebbero da dire tantissime cose. Dovremmo inaugurare una rubrica, una rubrica come direbbe qualcuno. Qualcosa di utile. Dedicata finalmente alle schifezze che succedono a Roma. Sì. Esattamente sotto la sede del Sole 24 Ore, forse Capanna lo ha notato mentre passava di lì, non lo so, sì, a sì. Piazza Indipendenza ci sì. si accoppia in pieno giorno sul marciapiede. Benissimo. Allora, lì, di fronte. C'è una zona occupata, un palazzo mezzo occupato, comunque dove ci sono dei barboni. No, che barboni? Tu sei un ci barbone. Ci sono dei barboni. Ci sono degli eritrei. Degli eritrei che bivaccano lì. No, bivaccano. Sono costretti a vivere lì. No, sì. bivaccano. Tu bivacchi a casa tua, come ho documentato su live tweeting, sulle foto che ho pubblicato su Twitter, su Instagram, della tua situazione a casa. Tu bivacchi. Che hai una doccia che è rotta da tre anni e che non viene utilizzata. E un gabinetto, pochissimo, raramente. E un gabinetto, non si riesce, bisogna farla, c'è il getto alto che non si riesce, e bisogna usare il telefono lì, come si chiama, la parte che mobile, telefono, no? La cosa, sì, la io lo chiamo sì. il telefono, sì, la parte mobile, la coppa della doccia, non puoi neanche appoggiarlo perché tutto lo devi tenerlo in mano, in modo scomodissimo, vero, sì, devi, vero, sono sì. abituato ad avere un flusso, un'acqua fortissima che scende e posso muovere le mie mani liberamente sì, sul certo. corpo, invece mentre no. la casa tua è scomodissima, proprio un disincentivo a farsi la doccia, assolutamente, quindi tu mi vacchi, poi c'è quel bagno completamente sporco con quello no, schifo che è rimasto, c'è una traccia sì non so, esatto, ma non credo che sia non è merda sì, non è merda non lo so lì. Ma è stata documentata sì, e poi ci sono delle siringhe che ho mandato, le siringhe servivano a mia figlia quando c'ha dei problemi al naso per so. Fare i cosi no, no questo fare lo, gli spruzzini lo al naso. Dovrai dimostrare, ma dimostrare a chi davanti io a chi? Fotografa è libero, ma che sono eroina, mi servivano per l'eroina, perché io intanto le ho fotografate, le ho mandate a Libero e ho scritto ecco cosa c'è a casa Cruciani, guarda, fai tu. Comunque ragazzi, davanti alla sede del Sole 24 Ore trombano in pieno giorno. No, ma adesso questo trombano in pieno giorno. Immigrati, pare. Sembra. Hanno diritto anche loro di fare la sì, una ma sessualità. Ragazzi, è una porcheria là davanti. Ma facesse sì, qualcosa, cioè... Capanna, facesse qualcosa quando transita di là, no? No, oppure i servizi di sicurezza del Sole 24 Ore facessero qualcosa, sì. cazzo. Non si può bivaccare lì con uno schifo terribile a Piazza Indipendenza vicino alla stazione Termini, dai. Torna il peggio di Radio Calabria, ex Radio Padania, vai! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti, vai con gli ascoltatori! Servi di Roma fuori. Innanzitutto andrebbe subito dichiarato l'aborto fuori legge, omicidio sul codice penale, chiudere le frontiere, abolire tutte le leggi che riconoscono la cittadinanza. Cittadinanza non esiste per nessuno, né adesso e né mai. Unione tra popolazione locale autoctone, premi alle nascite, premi alla gravidanza per ritornare a fare figli. Sì, però mi sembra un programma, Parenzo, vagamente nazistoide questo qua, no? Questo esposto dall'ascoltatore. Aborto dichiarato omicidio penale, abolita la concessione della cittadinanza agli stranieri, accoppiamenti solo tra autoctoni. Che dici, Parenzo? Che cosa ti fa ricordare questa cosa qua? Cosa ti fa ricordare? Cosa mi fa ricordare? Secondo te cosa mi fa ricordare? Mi stanco persino di dirlo e di ripeterlo. Cosa mi fa ricordare? Senti un altro ascoltatore, però stai attento. Fa orrore, mi fa. Mi piacerebbe sapere chi è il luminare, forse avrà bisogno di cambiare pusher, che ha dato, ha messo questa legge relativamente all'intrusione e la difesa personale in casa nelle ore notturne, perché noi quando entra qualcuno dovremmo armarci di orologio, ovviamente, giusto? Non lo sanno che i fatti più efferati avvengono dopo le 5 di pomeriggio, ma si può insomma sapere che chi si fa queste leggi qua? Siamo stanchi di questa marmaglia di rincoglioniti. Nella tempesta, come una madre in figlio. No, ma senti quest'altro, senti. Vabbè. Caccia oltre il fiume. Che venga la legge che dica che io posso sparare. Non siamo più armati, ma basta un coltello e questo glielo fico nella pancia. Il nonnina. Coltello glielo la fico nonna. Nella pancia. La nonnina col coltello. Lores, la nonna. Dove sei? No, non Lores. Chiamarla, lasciala, lasciala dove nel suo sei, letà. Amica lasciala mia, dove sua sei? Spelonca. Lores. Lasciala lì nella Lores. Sua grotta. Lasciala Lores. Nella sua grotta. È Veneto. Diventata praticamente il miraggio erotico di tantissimi ascoltatori. Lores. Ma di gente malata. Lores, mercato, dai. Dove sei? Lores, io conosco Flores dal Cais, no Lores. Senti quest'altro è più bella di tutti, questo ascoltatore della Padania, di Radio Padania, anzi, Radio Calabria ex Radio Padania, senti. Sì, Neri, guarda, davanti alla porta della Conad, questo si è messo due dita nel naso, ha soffiato e poi ha buttato con le dita il muco per terra. Con l'urridume di gentaglia che arriva, non è possibile. Gente che va dentro a fare la spesa, che pesta sta schifezza. Ma perché dobbiamo sopportare i conati di vomito per 2-3 ore? Questa è stupenda, allora, Parezzo. Le dita nel naso se le mette anche Cruciani, che non è un rifugiato e non è un migrante. Quindi, sì, però non è che scarico l'intero naso con il muco per terra. Però, ragazzi, queste cose qui non è che le fanno solo gli immigrati. Ah, ecco, la appunto, questo male. Bisogna dirlo. La nonnina di Radio Padania. Meno male. Chi si toglie, come dire, il muco dal naso è lo Soros! È Soros! Dubito che Soros si metta l'intera nel naso. Dubito. Ma che cazzo ne sai? Se mai gliele mette qualcun altro. C'è uno che è pagato per mettere l'intera nel naso a Soros. Ah, per togliere, dici, la. La caccoletta dal naso, cioè, a Soros. Mai c'è uno che gliele toglie. C'è il dottore di Soros che gli mette il suo Filippi, che gli mette dito al naso. La libertà. Vabbè, senti, chiudiamo sta senti, baracca, Varin, dai, conati basta, di vomito, sputo e soffiarsi il naso di questi africani piacciono al PD. Ma, no, senti, ragazzi, ma tu ma ti rendi conto? Ma tu ridi, ma che capisci? Ma c'è gente che pensa su serio. Abbiamo sta fatto roba. La rubrica noi, dai. Su, ho capito. Piace il conato di vomito, piace al PD, perché sono antiche tradizioni africane, signori, lo sputo, il soffiarsi il naso, ma è bellissimo! Guarda. Adesso però Varin fa incazzare anche me. Allora Varin, tu cazzo, non è possibile, non è che caspita, si può attribuire, non è che si può attribuire il, come dire, la caccola agli immigrati. Dai, ma cioè il muco dentro il naso agli immigrati. Tu pure sei uno zozzone, Varin, sei uno zozzone grasso, luido, nell'animo. Enorme. No, sicuramente caghi in maniera sproporzionata. Non lo so io. Sì, sicuramente caghi in maniera sproporzionata. Ma è un'immagine terribile, non mi interessa. Ma no, ma è una cosa orrenda, no, Varin, ma sei uomo orrendo. Sporco nell'anima. No, ma quello non mi interessa. È sporco dentro, nell'anima proprio. Perché uno che dice queste cose è sporco dentro. Naturalmente. Gaudenzio da Roma, vai, Gaudenzio, vai. Gaudenzio. Pronto? Dimmi, Gaudenzio, dimmi. Pronto, niente, io mi reputo un italiano vero. Sì. Una persona sì. seria. Sì. Per bene. Ma questo lo dici tu. Lo dico io chiaramente, però lo dico sì. io. Ma comunque non sei, ti consideri una persona, ti consideri una persona per siamo bene. Tutti io non ho detto che devo. No, fare no, una ma ti consideri una persona per bene, uno che paga le tasse, devo, uno serio. Devo, sì? devo necessariamente, e tolgo l'occasione, ti ringrazio per questo, ringraziare chi? L'onorevole Di Maio. Addirittura, perché devi fare? Perché devi ringraziare Di Maio? Perché oggi si è dimostrato che puntando un faro, una luce su queste schifezze che succedono nel mare, ha scoperchiato un qualche cosa che noi no, non veramente conoscevamo. Attenzione, fermo lì. Di Maio non ha scoperchiato una beneamata mazza. Diciamo la verità, Di Maio ha fatto ma non chiedere scusa a nessuno, chi deve chiedere scusa? Io gli ho dato subito ragione, gli ho dato. Ma tu l'hai diffamato, io non l'ho diffamato per niente, io gli ho dato ragione. Ma sta apparendo in continuazione fa queste stronzate, dice queste cose contro i 5 Stelle. Ma che ti hanno fatto i 5 Stelle? No, niente, io commento. Sei un giornalista. Sì, Gaudenzio, però parla bene. Non sono... commento... dove stai... Aspetta, fermo. Da dove stai parlando, Gaudenzio? Scusa. Sto chiamando dentro la macchina. Adesso beh, amico, ma togli, togli sto cazzo grotta, di viva voce. Spero. Togli il viva voce. L'auricolare, l'auricolare. E che cazzo, Gaudenzio, porca puttana. Che caspita. Lo vedi che si sente meglio, dai. Io voglio sapere perché a prescindere ce l'avete con il Movimento 5 Io non ce l'ho a prescindere. Questo sembra Antinori. Sembra Antinori. Sì, bravo. Esatto. Specialmente Parenza, ma che ti rendi che è inutile quello che fai. Tutto quello che dici, caro Parenza, fa aumentare... no, ma... consensi al movimento. Gaudenzio, parla in maniera utile. Parla in maniera utile più, per lei. Allora. Parla in maniera più strascicata. Pronto? Vedi? Pronto? È lui. Tutto quello che dice Parenzi, contro il Movimento 5 Stelle. Antinori, sì. Aumentare i consensi. E quindi bene, è utile. È inutile. Le sue, dunque ti dovrebbe. Sue, dunque è buono per te. Quindi è utile. Giornalistico, pseudo giornalista, perché lui. No, ma le dico colla. Di più. Ne valesse la teoria del complotto, io in realtà sono pagato dai 5 Stelle. Sì, lo so. Nel grande complotto. Aspetta, Gaudenzio, aspetta un attimo, aspetta. Pronto? Gaudenzio. È uguale. Che è uguale, Gaudenzio, uguale, che dicevi? Oh. Dimmi. Ma che sei il figlio di Antinori sei? Ma quale figlio di Antinori? Che sei uguale di Antinori. Ma sembri Antinori uguale. Sembri Antinori uguale. Pronto. Senti, pronto. Di Maio. Pronto. Bravo. Chiediamo scusa a Di Maio una volta per tempo. Sì, ma chiedi scusa tu. Io non devo chiedere scusa a nessuno. Chiedere scusa perché chiedi scusa. Chiedi scusa tu. Parenzo l'ha preso per culo. Questo è un fatto vero, invece volevate insabbiare questo fatto. Ma io adesso non volevo andiamo avanti con Soros. Vogliamo sapere, Gentiloni, che cazzo c'è? Doveva fare con Soros ieri al Parlamento. Sapete chi è Soros? Leggi Soros su internet, vedete su chi internet. È internet, sì, un delinquente che va un a parlare con il capo dai, Parenzo, del mio governo. Un delinquente. Vai all'attacco. Un delinquente. Certo. Soros vai è un signore che ha ma l'internet. Vai a vedere quello che dice l'internet. Certo. Cavolo, internet che dice che sei un giornalista opinionista tu. Lo dice internet. Inutile. Lo ha detto internet. Lo ha detto l'internet. È uguale a cose. Certo, uguale, che l'ha detto l'internet, che sicuramente Soros è più preparato di te. Tu vai al ma non esiste l'internet. Sì, penso ai giorni. Penso io penso ai giorni. Sì, da 2000, sì. Io penso ai giorni. Penso a quei io penso a ai giorni. Ai giorni in cui ti vorrei mandare a quel paese. Scusa, guarda, sai. Io penso ai giorni in cui ti vorrei mandare a quel paese. Conto le ore. Conto i giorni per mandarti a quel paese. Guarda. Allora, quello che tu stai facendo. Il di signor bello. Soros è un signore che ha finanziato i movimenti anticomunisti. I movimenti anticomunisti dell'ex gioco sovietico. Ha finanziato i movimenti contro Slobodan Milosevic, ha finanziato Solidarnosc, Lech Walesa, sa chi è? Ma lei è povero di cervello, è il povero di cervello. Ma lei sa cos'è Solidarnosc? Sa cos'è Solidarnosc o no? Asino che vola, sai cos'è? Ma inutile, ma che cosa lascia lei? Quando vanno a scuola, che dicono che fa tuo padre? Un giornalista, ma giornalista di chi? Ma tu che cazzo fai? Fai il pappagallo alla zanzara. Ma tu che cazzo fai di mestiere? Scusa, Gaudenzio, che fai? Io non faccio niente. Allora, appunto, faccia, faccio faccia l'autista, così. Faccio lei non va bene. Questo è ottimo, questo è nobile da parte sua. Faccia così. Certo. Allora, faccia i compiti. Zitto, faccia i compiti. Rimandato, via. Lavoro 12 via. Ore al giorno. Vai via, Asmodeo. Faccia, strada. Sì, bravo, in mezzo alla strada, ma che sei lo schiavetto di Di Maio? Che sei? Faccia i compiti per casa. Faccia così. E faccia così. Stasera faccia i compiti per casa prima di mangiare la minestrina al burro. Ma guardi chi è Solidarnosc. Parenzo, chiedi scusa. Non chiedo scusa. Ma non chiedo scusa a un corno di nessuno. Io, proprio certo. A nessuno. Chiedi scusa, faccia, Di Maio. Faccia i compiti. Faccia chiedi i compiti scusa per Di Maio. Casa. Stasera vada su internet e digiti Solidarnosc. Veda chi ha finanziato questo movimento. Solidarnosc. Lo vada a vedere. Che cazzo ci frega di Solidarnosc? Cosa ha fatto Soros? Ma che vuole capire della gente? Della gente. Dice, siccome frequenti, invitato, frequenti. Sì. A casa tua cucinando, facendo cucinare a, a Bissani. Come fa a sapere? Questo è vero, però come fa a sapere? Ma come fa a sapere che ma chi è uno dei servizi segreti? Come fa a sapere che qua è venuto? L'avrei detto qua, sì. È venuto a casa mia, Chicco. Sì, pronto? Pronto. Io guarda, se ti prendo, guarda, ti porto in giro. C'è scritto anche su internet, caro Palenzi. C'è scritto su internet. Che c'è scritto su internet? C'è scritto su internet, bravo. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto su internet? Cioè che tu, Chicco sì. Testa, con le famiglie e sì. Bizzarri che mi faceva la cena. Quando ti mamma mia! Scandalo globale! Ecco chi ha cucinato a casa. Sei un bambino viziato. Ma vai a questo. Ma questo può anche. No, viziato non sono mai stato. Tu non potrai mai capire il movimento. Perché nel momento in cui. Il movimento. Il movimento di che? Quale movimento? Lei è fermo di cervello. Non c'è nessun movimento. Nel suo cervello non c'è alcun movimento. Ragionare qua perché è fissato con Chicco Testa? Non dormi la notte. Ma che ha fatto Chicco Testa? Hai paura che domani mattina ti ritrovi il Mogri, ti ritrovi Di Maio sì. Presidente del Consiglio. Beh, questo un po' poi francamente non ci sarà trippa per gatti. Non ci sarà trippa per gatti. Non ci sarà trippa per gatti. Questa è la paura vostra. Sì. Mancherà la trippa per i gatti con i movimenti di presidenza. Sarai appeso a testa in giù, Parenzo. Faccia così, dica alla sua infermiera che appena l'ha fatto la puntura mi mandi un messaggino che non sono tranquillo fino a quando non la vedo a letto. Su, allora dica alla sua infermiera. Scusa, di mandare Galenzo, un messaggino. Per chi lo fai l'autista? Per l'ATAC? Ah, no, io lo faccio per me stesso. Guarda. Sì. Ma che da solo, fa l'autista, gira da solo la città, da solo, senza nessun cliente. È un disturbato. Da solo. È un disturbato. Sì, ma perché è un disturbato? Gira. Perché ha detto che lo fa da solo, gira la città da solo. È quello che gira la città da solo, è un disturbato. Come ti piace dire stronzate? Questo è il tuo livello. Sì, il livello anche. Comunque chiedi scusa a Di Maio, David. Ma io non chiedi chiedo scusa a Di Maio. Non chiedo scusa a chiedi scusa a Di Maio. Chiedi scusa a Di Maio. Grazie perché hai lanciato. Grazie, adesso freccia. Non esageriamo, grazie. Hai lanciato? Ah, vabbè, come dobbiamo dire? Ma non ha fatto un cazzo Di Maio. Ha ripreso una cosa detta da un ragazzino, su internet. Ha messo una luce su un problema. Certo. Cioè proprio messo la luce su un problema. Comunque facciamo insieme Gaudenzio. Gaudenzio. Ciao, sei andato da Gentiloro a fare che? Ce lo spiega, ce lo fate spiegare. Ce lo spieghi, ci spieghi perché ha incontrato Soros Gentiloni. Ce lo spieghi. Però Gaudenzio, facciamo insieme. Criminale. Come si chiama il procuratore di Catania? Gaudenzio. Gaudenzio. Come si chiama il procuratore di Catania? È finita, sì, la trasmissione è finita, per fortuna. Il procuratore di Catania, come si chiama? Zuccaro. Oh, zucchero, facciamo insieme. Facciamo insieme. La la la la la zucchero, la la la la la zucchero. Non è solo quello il suo problema, lo garantisco. Non è l'unico suo problema. La la la la zucchero, la la. No, ma non guarda, io faccio dire una cosa seria. Cosa devi dire? Sentiamo, Parenzo, cerca di fare la persona seria, d'accordo, sì. Fin dei conti sei anche una brava persona. Grazie, fin dei conti. Ma dato dal criminale praticamente, fin dei conti vai alla setta a dire certo sì. Stronzato, ieri hai fatto la figura di merda con la chiedi signora. Scusa Di Maio, chiedi scusa a Di Maio. Chiedi scusa ragazzi, Di basta. Senti, mi avete rotto i coglioni. Andate a quel paese tutte le la zucchero, la ciao Antinori, ciao Gaudenzio, ciao Antinori. La zucchero. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. Pronto? Radio 24. Libera la voglia di fare.